Ringrazio l'Ampi Provinciale, l'Istituto di Storia Contemporanea per Amato Berretta per aver, come dire, ideato e realizzato questo ciclo di conferenze che sono assolutamente necessarie. Visto il tema di questo appuntamento, vorrei, se mi permettete, ricordare le parole di Piero Calamandrei, che forse, come dire, più di ogni altro ha identificato e, voglio dire, centrato bene l'indissolubilità tra la Resistenza e la Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Ecco, riallacciandomi ad oggi, direi che queste iniziative sono assolutamente necessarie, sarebbero necessarie ancora di più nelle scuole, perché insomma, voglio dire, i cittadini del domani sono i giovani di oggi, ma sarebbero necessari questi approfondimenti sulla Costituzione anche, se mi permettete, a chi occupa ruoli istituzionali, che sono coloro che solitamente giurano sulla Costituzione, tranne poi, purtroppo, ahimè, più delle volte disattenderla, non applicarla o, peggio ancora, agire contro i dettami e i principi della Costituzione. Io termino qua questo breve saluto, lascio la parola al Presidente Provinciale Guglielmo Invernizzi, che presenterà poi il relatore. Grazie ancora. Prima c'era Fabio, volevo invitarlo come vicepresidente del... No, eri qui. Ma poi devo andare però, Perché lasciamo andare che si sente. Ho capito, ma non è bello prima della fine dell'intervento. No, adesso ho capito perché da qui in avanti si è spostato dietro, ma fa niente. Dai, certo, vicepresidente dell'Istituto di Storia con cui abbiamo organizzato... Ma siccome a seguire c'è un'altra iniziativa politica a cui mi tocca di essere, grazie. Allora, io più che volentieri, figurati, però non mi sembra bello che poi a un certo punto, come la fiaba di Cenerento, mi trasformo in zucca e me ne vado. Lei con pensiero ti accompagniamo tutti. Va bene, però. Allora, volevo presentare il professor Valerio Vida, che ci tiene quest'ultima conferenza. Ringraziandolo per la sua partecipazione, è stato un po' complicato mettersi d'accordo, ma per colpa nostra, non per colpa del suo ufficio. Salvo oggi che è arrivato con un telefono diverso, non riusciamo a metterci in contatto, però ci siamo trovati lo stesso, quindi non è stato un grande problema. Il professor Lunilla, molti di voi lo conoscono già, se ne ha occasione di parlare, professore di ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano dall'83 al 2009, è stato eletto giudice costituzionale del Parlamento nel suo comune il 24 gennaio del 96, diviene poi presidente della Corte Costituzionale per un breve periodo. Il 25 giugno del 2011 il Consiglio Generale dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia lo ha eletto presidente dell'Istituto, nella quale è succeduto il presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Oggi mi dice che non è più lui presidente, ma sì, è vero, è stato pezzino che abbiamo avuto presidente, ma anche un ex presidente. Nel corso della sua carriera è stato presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, è stato presidente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e tanti altri incarichi, tanti altri. Quindi noi lo ringraziamo vivamente per questa sua partecipazione, così come ringrazio tutti gli intervenuti, in modo particolare quelli che hanno partecipato a tutto o più di queste nostre iniziative, sono state tutte una più interessante dell'altra. Ringrazio ovviamente anche l'Istituto di Storia per la collaborazione che ci ha dato e do la parola a Fabio per un breve saluto anche dell'Istituto. Brevissimo. Noi siamo molto contenti ovviamente di aver avuto questa occasione. L'Istituto di Storia Contemporanea ha questo come missione, missione che cerchiamo di svolgere quotidianamente nelle scuole, ma non solo, con gli studenti, con i professori, con le persone più diverse. Credo sinceramente che in tutti questi anni, quest'anno l'Istituto celebra i 40 anni e bisogna sempre ricordare che è nato per iniziativa di Giusto Perretta, figlio di quel Pier Amato Perretta a cui oggi l'Istituto è dedicato, che è stata una figura davvero di riferimento nel panorama, ma più, guardate, più ancora dell'antifascismo comasco, direi della coscienza civile comasca, perché Pier Amato Perretta è stato di più che un resistente, magistrato che si dimette dalla magistratura per non scendere ad alcun compromesso col regime, che già maturo, poi tutte le volte che penso che è entrato in clandestinità anziano, penso che comunque era più giovane di me adesso, quindi questa cosa un po' mi ferma, ma va detto, va ricordata continuamente perché l'età, il tempo cambia, e il figlio Giusto Ultimo, perché era il figlio più piccolo, prigioniero di guerra in India, rientrato dopo la liberazione in Italia, si dedica da una parte al movimento cooperativo ed è stato un grande dirigente del movimento cooperativo lombardo. Proprio ieri, mi piace ricordarlo, abbiamo consegnato una borsa di studio nel suo nome nel decimo anniversario della sua scomparsa, proprio per mettere definitivamente in ordine quel grande archivio della cooperazione lombarda che sta a Como per merito suo, ma per un verso appunto dirigente cooperativo, per l'altro dirigente politico nel Partito Comunista, ma anche e soprattutto impegnato nel tenere viva la memoria storica. Se oggi siamo qui e se abbiamo potuto collaborare con l'ANPI per questo ciclo di conferenze, credo che lo dobbiamo a persone come lui, e quindi credo che nella quotidianità dell'impegno che ci deve vedere i protagonisti, un pensiero vada sempre a persone come Giusto. Grazie. Grazie anche a Fabio, do la parola al professor Lumida per la sua relazione. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Il titolo Resistenza e Costituzione, il titolo tradizionale. Tanti hanno detto, tanti dicono la Costituzione è figlia della Resistenza. Noi qui devo fare una riflessione di tipo storico, perché la storia è importante. Molti di voi, la maggior parte di voi, non ha vissuto neanche da bambino, ovviamente come invece la mia generazione, quella stagione, ma voglio ritornare col pensiero, con l'informazione, con la riflessione su quello che accadeva e su quello, sulle idee che hanno, su cui si è fondato la vita della Repubblica è importante. Il 70° anniversario della Costituzione, che è appena trascorso da un anno, ci ha dato l'occasione, ecco, per una riflessione di questo genere, ed è importante farla, perché è vero, diciamo, che la Costituzione è figlia della Resistenza, come si usa dire, nel senso che la Resistenza ha espresso nei fatti, con l'azione, diciamo, la volontà dei partiti antifascisti, perché la Resistenza è un fatto essenzialmente dei partiti del CLN, diciamo, poi sono stati diversi raggruppamenti, ma comunque. Dunque, la volontà di questi partiti di operare per liberare prima di tutto il territorio nazionale dall'occupazione nazista, appoggiandosi anche l'azione delle truppe alleate che, come si sa, fin dal luglio del 1943 erano sbarcate in Sicilia e salivano la penisola, ma molto lentamente, ci sono voluti 2 anni per la liberazione dell'Italia, fine della guerra, Siamo quindi col compito di liberare, operare per liberare il territorio nazionale, ma anche col compito di assumere, diciamo, l'onere di guidare la ricostruzione del paese, non nel senso materiale soltanto, ma la ricostruzione delle istituzioni del paese dopo la caduta del fascismo. Quindi ricostruzione in termini nuovi, in termini conformi agli ideali democratici. Ricordiamo brevemente, rapidamente, le salienti vicende di quel periodo. La Costituzione nasce nel 1947-48, ma ha una lunga storia alle sue spalle. Non è solo la storia della Resistenza, è la storia del costituzionalismo. Il costituzionalismo nasce ben prima, nasce, come noto, con la rivoluzione della fine del Settecento, nasce affermando sostanzialmente due grandi concetti: quello dei diritti di libertà, cioè che gli individui, le persone umane sono titolari di diritti, i cittadini sono titolari di diritti di fronte a, anche prima di tutto di fronte al potere, quindi è un potere sempre limitato. La prima affermazione del costituzionalismo vuol dire questo: dal potere assoluto a un potere limitato appunto all'esistenza dei diritti. E il secondo punto era quello che noi chiamiamo la democrazia, cioè il superamento dell'idea per cui il potere diciamo spettava per ragioni ereditarie o per ragioni religiose o altro a qualcuno che era il monarca, il re assoluto, e gli altri erano sudditi, cioè chiamati essenzialmente a obbedire. Noi ancora usiamo oggi questa espressione, queste parole, perché la parola sovranità la usiamo tutti i giorni, sta scritta anche nella Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, però dobbiamo ricordarci che queste parole nella storia hanno cambiato significato, perché la sovranità di cui si parlava nel caso dei regimi assoluti era sovranità in senso letterale. Sovranità vuol dire stare sopra, quello che comanda è sopra e gli altri stanno sotto, nel senso che sono dei sudditi, quelli che obbediscono. Questa era l'idea del potere prima delle rivoluzioni della fine del Settecento. Quindi questa era la grande idea, accanto all'idea dei diritti come limiti al potere, quindi non un potere illimitato, ma un potere limitato dei diritti, l'idea della democrazia, cioè che il potere non sta nell'alto, nel monarca assoluto, ma è un potere che si organizza, insomma, in qualche modo a partire dalla parte del popolo, quando quello che la Costituzione esprime dicendo la sovranità appartiene al popolo, anche che poi aggiungendo che la esercita però le forme nei limiti della Costituzione, proprio per ricordare che il costituzionalismo è essenzialmente prima di tutto limite al potere politico. E la storia del costituzionalismo poi è molto lunga, si svolge appunto incominciando alla fine del Settecento, ma si svolge per tutto l'Ottocento, per tutto il Novecento, e la prima fase della storia del costituzionalismo è quella, potremmo dire, di regimi liberali, appunto che riconoscevano diritti, e di regimi in qualche modo democratici, ma in cui di democrazia si poteva parlare in un senso molto restrittivo, cioè una democrazia di élite. Ricordo sempre che in Italia la nascita dello Stato italiano nel 1861, in Italia votava il 2% della popolazione, il diritto di voto, perché intanto le donne erano ovviamente escluse dal diritto di voto, quindi già metà della popolazione priva del diritto di voto, e poi perché anche per gli uomini c'erano dei requisiti di censo, cioè di ricchezza, di pagare imposte, e di cultura che pochi possedevano. Quindi 2% pensando della popolazione, come se oggi in Italia 60 milioni di abitanti votassero in 600.000 o 1.200.000, 2%. Quindi una democrazia, sì, ma una democrazia potremmo dire di elite. E tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento sono stati, dal punto di vista della storia del costituzionalismo, attraversati per quello che noi possiamo chiamare la questione sociale, cioè l'idea che c'erano masse di popolazione, di popolo, che in realtà erano, sì, titolari anche dei diritti fondamentali di libertà, ma che nell'organizzazione delle istituzioni dello Stato non entravano, perché era appunto una democrazia elitaria. Quindi la questione sociale, la questione del movimento dei lavoratori, che non si esprime soltanto nascita di organismi politici espressamente dedicati a questo scopo. Il Partito Socialista in Italia nasce nel 1890, quindi uno dei primi partiti nel senso moderno della parola, i partiti di massa, si è primi in tante forme delle leghe, degli altri partiti che pure assumivano questo tema e questo problema della questione sociale. Quando quindi nel primo quarto del Novecento, anche l'Italia che sempre condivido e partecipato alla storia, ha partecipato in termini, se volete, un po' secondari, ma la storia delle istituzioni europee durante tutto l'Ottocento, nasce tardi, ricordate che il Regno d'Italia nasce non per sulla base di un'assemblea costituente che redige una Costituzione. Il Regno d'Italia nasce in realtà come semplicemente trasformazione e cambiamento del nome di un regno che già c'era, quello di Piemonte e di Sardegna, nel quale nel 1848, due anni prima che si costituisse lo Stato italiano, si era dato una Costituzione del tipo delle costituzioni liberali della prima metà dell'Ottocento, quindi lo Statuto Albertino, lo Statuto che il re Carlo Alberto aveva nel 1848 concesso ai propri prima sudditi e poi cittadini, era una Costituzione modellata su appunto queste idee, questi principi del liberalismo della prima metà dell'Ottocento, e questo statuto diventa automaticamente, in quanto lo Stato italiano nasce per aggregazione di altri territori via via con le guerre di indipendenza al Regno di Piemonte e di Sardegna, non è altro che il Regno di Piemonte e di Sardegna che cresce nella sua consistenza territoriale e che ha una Costituzione, lo Statuto. Quindi diventa la prima Costituzione italiana, ma diventa non perché nel momento in cui nasce lo Stato italiano ci si dia una nuova Costituzione, ma semplicemente perché appunto le forme in cui le vicende storiche da cui è nato questo Stato erano queste, cioè semplicemente l'aggregazione di altri territori intorno ad un piccolo regno, quello di Piemonte di Sardegna, sotto la monarchia di casa Savoia. E quindi diciamo la posizione costituzionale dell'Italia è una posizione fondamentalmente non di primo piano, perché appunto non c'è una costituzione dello Stato italiano, c'è la Costituzione Albertina che diventa la Costituzione del Regno d'Italia, ma poi dopo la prima guerra mondiale, che come si sa è costituito un po', dal punto di vista della nostra storia nazionale, il completamento delle guerre di indipendenza, è solo con la prima guerra mondiale che l'Italia, il Regno d'Italia si impadronisce anche di terre nel nord-est, comprese parte di terre dove in realtà non c'erano italiani di nazionalità, cioè l'Alto Adige. L'Alto Adige era, come è, prevalentemente la lingua tedesca, l'Italia conquista nella seconda guerra mondiale anche quella parte di territorio, e quindi la fine della prima guerra mondiale segna per l'Italia, potremmo dire, il compimento dell'unità nazionale, eccetera, ma un po' per tutta l'Europa, l'affermarsi di questi stati nazionali che in genere si richiamavano ai principi del costituzionalismo della fine del Settecento. Erano però stati fondamentalmente appunto nazionali che succedevano in Europa e nel resto del mondo, soprattutto in Europa, a quelli che erano prima delle entità sovranazionali. L'impero asburgico austro-ungarico era un impero che comprendeva l'Austria, l'Ungheria, pezzi d'Italia, eccetera, eccetera, e l'impero ottomano, quello della Turchia, deteneva il suo potere in molta parte dei Balcani e del Medio Oriente. Quindi con la prima guerra mondiale segna la fine di queste entità politiche, di queste anche realtà politiche, e l'avvento degli stati nazionali, quelle che poi si chiamavano anche le potenze nazionali, tra cui il Regno d'Italia. Ma però l'Italia ha una storia particolare, perché come tutti sanno, dopo la fine della prima guerra mondiale, dopo una fase molto convulsa, anche di scontri sociali, politici molto aspri, arriva il regime fascista molto presto. il fascismo è il primo regime autoritario che si installa in Europa. Hitler arriverà solo nel 1933, conquistando il potere, anche là, distruggendo la Repubblica tedesca di Weimar, la prima Repubblica Democratica, i tedeschi, lo conquista il potere e diventa, diciamo, nasce il nazionalsocialismo, il nazismo come lo conosciamo nella storia. Ma l'Italia era una storia prima, il fascismo si afferma, come sappiamo tutti, nel 1922, e si afferma non con una pretesa di continuità neanche parziale con la storia costituzionale precedente. La continuità si limita al fatto che resta il Regno d'Italia, quindi il re, la monarchia resta, non è che col fascismo va via. La rivoluzione fascista non tocca quella istituzione, la monarchia, però tutto il resto dell'assetto costituzionale del paese è interamente innovato proprio dall'affermazione di un regime schiettamente autoritario, ideologicamente autoritario. E questi regimi, che appunto nascono nell'Europa della prima metà del Novecento, fascismo e poi il nazismo e poi il franchismo prima in Spagna e il salazarismo in Portogallo, in Grecia, sono regimi che quasi connotano, perché non solo non praticano le regole della libertà, diciamo così, non rispettano i diritti di libertà come tanti altri regimi autoritari non rispettano i regimi di libertà, ma si affermano, si consolidano affermando ideologicamente la falsità dei presupposti del costituzionalismo. Cioè i fascismi non credono nei principi della rivoluzione francese, principi di libertà, di limitazione del potere, di democrazia, sia pure elitaria nella prima fase, non credono, anzi ritengono che il potere politico e l'assetto politico delle varie nazioni debba basarsi su diversi e opposti principi. Il principio dell'autorità contrapposto al principio di libertà, il principio del capo contrapposto al principio per cui invece il potere è limitato. E quindi il fascismo coerentemente realizza, sia pure rispettando quella sola istituzione proveniente dal passato, che era la monarchia, la conserva come un guscio vuoto, potremmo dire, perché nell'organizzazione del potere tutto cambia, e cambia secondo queste nuove concezioni. Quindi, ripeto, non è soltanto la pratica illiberale del fascismo che si realizza, ma è la idea del fascismo che parte dal presupposto che è sbagliato costruire gli stati e organizzare le nazioni sulla base dei principi delle rivoluzioni costituzionali della fine del Settecento, che si deve partire invece dal principio dell'autorità e così via. Quindi il fascismo, coerentemente, anche se progressivamente, perché in fondo la durata del fascismo 20 anni non sono poi tantissimi, no? Da 22 al 43, progressivamente realizza nelle istituzioni le limitazioni di libertà, la soppressione del pluralismo politico, tutti i partiti diventano fuori legge, salvo il partito fascista, che non a caso si costituisce, era un partito ma che viene dalla legge trasformato in un'istituzione dello Stato. Il Partito Nazionale Fascista per legge era una istituzione del nuovo Stato fascista, quindi non era un partito nel senso che noi oggi usiamo questo termine. Quindi soppressione delle libertà, soppressione del pluralismo politico, soppressione di tutti gli istituti di tipo democratico, perché il fascismo comincia, non ricordiamo, abolendo le amministrazioni locali elettive. Ai sindaci si restituisce un podestà nominato dal governo nazionale, e quindi non parliamo delle province che non erano elettive neanche prima, non sono elettive, i prefetti sono terminali dell'azione dello Stato centrale, e seppure verso la fine del suo iter, il fascismo sopprime l'ultima e somma istituzione che poteva chiamarsi democratica, cioè era la Camera elettiva, perché lo Statuto del Partito prevedeva due Camere, una di nomina regia e quindi di fatto nominata dal governo, il Senato, e questa rimane anche durante il fascismo. L'altra invece è elettiva, eletta ovviamente dal popolo, da quella parte di popolo che aveva il diritto di voto, la Camera dei Deputati. Bene, 1939 anche questa istituzione viene soppressa, la legge sopprime la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e istituisce sopprime la Camera dei Deputati e vi sostituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, cui i componenti erano gli esperti del governo. Quindi si realizza in pieno l'idea di un regime di autorità, non di, di libertà e di democrazia dal basso. Poi ovviamente le ultime, come dire, imprese del regime fascista sono poi forse le più, da un certo punto di vista, quelle che l'hanno condotto anche alla distruzione, ma sono anche le più drasticamente contrarie ai principi costituzionali, perché nel 38 ci sono le leggi razziali. Le leggi razziali, ricordiamolo, vale la pena di ricordarlo, perché anche queste sono, abbiamo appena celebrato l'80° anniversario delle leggi razziali, non celebrato, ve l'ho ricordato. Le leggi razziali nascono in Italia certamente anche perché c'era l'antisemitismo, l'antiebraismo del regime nazista che spingeva per la persecuzione degli ebrei, che darà luogo alla Shoah. Ma per l'Italia l'idea razzista era fondamentalmente non nata dall'avversione agli ebrei, forse neanche dall'avversione di per sé ad altre popolazioni o gruppi etnici, ma nasceva dall'idea espressa nelle dichiarazioni ufficiali del regime, secondo cui gli italiani erano una razza piccola, si diceva, ci sono razze grandi, gli ariani, i semiti, e poi c'erano le piccole razze. Esisteva, secondo le dichiarazioni del regime fascista, la razza italiana, che secondo le loro dichiarazioni era una razza pura, nel senso che da millenni non era stato oggetto di mescolanza, qualche dubbio, perché l'Italia è attraversata. Ma comunque questo era quanto veniva espressamente affermato. Quindi una pura razza italiana, la quale doveva essere difesa e sviluppata. La difesa della razza come si realizzava? Impedendo e contrastando ogni contaminazione. Quindi era proprio l'idea della razza da difendere non contro altri nemici esterni, per così dire, ma proprio le possibili contaminazioni, cioè la razza ebraica doveva essere preservata come tale e quindi non contaminarsi, non subire quelli che espressamente in questa dichiarazione vengono chiamate incroci e imbastardimenti. Così si usavano questi termini, proprio queste parole. E quindi difesa della razza, miglioramento della razza, si usavano i termini che noi oggi usiamo per quando pensiamo a sviluppare la razza dei vitelli che producono più latte, ecco. Con questi termini si diceva, va difesa e sviluppata la razza italiana. E di conseguenza, qual è il primo precetto che viene tradotto in legge? Legge approvata dalla Camera, allora anche dalla Camera dei Deputati, non c'era ancora la Camera dei Fasci delle Corporazioni, arriverà l'anno dopo, è promulgata da Vittorio Emanuele III, re d'Italia, d'Albania, imperatore di Etiopia, questa era l'intestazione ufficiale del monarca. La prima legge, si intitola Provvedimenti per la difesa della razza italiana, sancisce nel primo titolo proprio, prima di passare alla considerazione del problema ebraico, sancisce il divieto di matrimonio di cittadini italiani o cittadine italiane che ricoprissero cariche pubbliche in enti pubblici, qualunque incarico, qualunque ruolo pubblico, divieto di matrimoni con persone straniere, non di diversa razza. Poi c'era anche il divieto assoluto per tutti di matrimonio con persone di razza non ariana. Ma la cosa singolare è questa: divieto di matrimonio degli italiani e degli italiani che occupavano posti negli enti pubblici con stranieri, di qualunque razza, si diceva esplicitamente. Quindi per un italiano sposare una francese o un'austriaca, o per un italiano sposare un francese o un tedesco, non era, se si occupava di un posto pubblico, non era consentito. La pena era perdere l'impiego. E per gli altri, quelli che non erano enti pubblici, quelli che non erano funzionari pubblici, si ammetteva il matrimonio, non se non era nullo il matrimonio. Però attenzione, doveva essere previamente autorizzato dal ministro degli interni. Quindi un cittadino italiano che voleva sposare una francese, una tedesca, una austriaca, doveva, prima di sposarsi, chiedere l'autorizzazione. Se non la chiedeva, c'era una multa, c'era una, una sanzione di tipo. Questo, vi dico questi dettagli che possono sembrare oggi ridicoli, ma ridicoli nel senso che sono in realtà l'espressione tradotta in leggi di una idea, della idea. Quello è il vero razzismo italiano. Quando oggi parliamo giustamente, teniamo diciamo, il risorgere di venature razziste, è molto a quello che c'è, perché è la paura della contaminazione, la paura del diverso che se sta con noi, se si mescola con noi, ci toglie l'identità, ci impedisce di essere noi stessi. Questa è l'idea. Quando si dice gli italiani, evitare la sostituzione etnica, evitare l'invasione degli stranieri, eccetera, è ancora questa l'idea. Cioè, noi siamo una razza purissima e dobbiamo difenderci dalle contaminazioni che potrebbero accadere se viviamo insieme nello stesso territorio. Ho voluto ricordare con qualche dettaglio questa vicenda delle leggi razziali perché è qualcosa che fa parte della nostra storia culturale e politica. Non è un caso, un accidente, probabilmente esprime un'ideologia, un'idea, un modo di pensare proprio del regime fascista, ma che forse non ha del tutto cessato di esistere. Questo è il problema. Quindi le leggi razziali e poi diciamo, il passo finale che porterà alla rovina anche il fascismo, l'entrata in guerra dalla parte sbagliata, potremmo dire, perché la seconda guerra mondiale, non dimentichiamo, non era stata una tra tante guerre combattute fra le potenze del mondo in cui si lottava per stringere i propri confini o per conquistare pezzi di territorio o per conquistare colonie molte volte o per affermarsi sul piano economico. Le guerre tra potenze che hanno caratterizzato tutta la storia dell'Ottocento e la prima parte del Novecento era un'altra cosa. La seconda guerra mondiale è davvero un'altra cosa. Quando si dice, anche alcuni storici dicono una guerra che è durata 30 anni, che c'era la prima e poi la seconda guerra mondiale, non è vero che la seconda guerra mondiale sia una specie di continuazione della prima guerra. Non ha niente a che fare, potremmo dire, addirittura con la prima guerra. È un'altra cosa. La seconda guerra mondiale è un evento epocale, come diceva Bessetti, che ha sconvolto il mondo dal punto di vista materiale, perché appunto le distruzioni, i morti fino all'atomica, ma dal punto di vista spirituale, potremmo dire, e anche delle idee, ha segnato una netta svolta, e poi dirò come, secondo me, è proprio la partenza dopo la fine della seconda guerra mondiale che nascono, si radicano idee che fanno parte del costituzionalismo di oggi. Quindi, seconda guerra, entrata in guerra dalla parte sbagliata, e non dimentichiamo l'ultima cosa, che il regime fascista si è considerato, si è autoproclamato come il portatore di una nuova era, l'era fascista. C'è ancora in qualche monumento possiamo leggere accanto alla data la dizione 17esimo E.F. Cosa voleva dire? Era fascista. E da dove si contava questa datazione con i numeri romani? Non dal 1 gennaio, ma dal 22 ottobre 1922, da ottobre 1922. E quindi siamo il 1938, per esempio, fino a settembre-ottobre era il diciassettesimo anno dell'era fascista. Dall'ottobre diventava il diciottesimo anno dell'era fascista. Dettagli, appunto, anche questi possono sembrare folcloristici, ma che in realtà ci ricordano che il fascismo non ha preteso soltanto di essere uno tra i regimi politici che, ma hanno preteso di essere l'avvento e la realizzazione di una nuova era che era basata su quelle idee, quindi l'era fascista. Allora, quindi la caduta del fascismo rappresenta l'elemento, la caduta del fascismo che avviene nel 1943, come si sa, l'elemento che consente di avviare una nuova fase della vita dello Stato italiano. La caduta è la caduta che avviene naturalmente essenzialmente a causa dell'andamento della guerra, che ormai volgeva a favore degli alleati e quindi contro Hitler e i suoi alleati, ma avviene per quello che noi oggi potremmo chiamare un colpo di Stato, perché non è che dall'esterno qualche forza politica, tanto meno militare, abbatta il regime fascista. Il Gran Consiglio del Fascismo, questo che era l'organismo massimo di tipo consultivo, ma che era l'organo che raggruppava tutti gli esponenti del regime fascista, il 25 luglio del 1943 chiede che Mussolini venga sostituito, chiede al re che Mussolini venga sostituito nella carica di capo del governo, infatti il re lo sostituisce con maresciallo Badoglio, anzi fa arrestare Mussolini, poi verrà molto presto liberato dai tedeschi e portato al nord, ma quindi il fascismo cade così. E al primo momento, i primi potremmo dire mesi della caduta del fascismo del 25 luglio 1943, sembrano non dar vita a un nuovo Stato, diciamo. Sembrano consentire a quella che era rimasto l'unico involucro, diciamo così, non fascistizzato, non espressamente fascistizzato dello Stato, cioè la monarchia, potuto sembrare che fosse quel momento in cui la monarchia riprendeva il controllo della situazione e governava in vista di i primi mesi, parlo proprio dei primissimi mesi, dal 25 luglio 43 all'8 settembre 43, cioè quando viene poi annunciato l'armistizio, nel frattempo è quindi quando poi si realizza l'occupazione di gran parte dell'Italia da parte delle truppe naziste. I primi mesi sono quelli che gli storici chiamano il tentativo, lo battezzano il tentativo di restaurazione statutaria, cioè l'idea che ha battuto Mussolini, ha battuto quindi il capo, l'espressione del fascismo, del regime fascista, si poteva e si doveva ritornare all'ottobre 1922, riprendere da là. Lo statuto c'era ancora, quindi si poteva ripristinare la vita istituzionale del paese, del regno d'Italia, che tale era rimasto ancora formalmente, si poteva ripristinare eliminando le incrostazioni del regime fascista, quindi per esempio sopprimendo la Camera delle Fasce delle Corporazioni, e questo è infatti uno dei primissimi decreti del governo Badoglio, ha questo contenuto, è soppressa la Camera delle Fasce delle Corporazioni e si annuncia che alla fine della guerra era chiusa la legislatura in corso, la legislatura parlamentare, e che alla fine della guerra si sarebbe aperta una nuova legislatura con l'elezione di un nuovo Camera dei Deputati ai sensi dello Statuto. Quindi l'idea era: ripartiamo dal 1922, ripartiamo dallo Statuto. È un'idea questa del ripristino dello Statuto e quindi della restaurazione statutaria, che viene chiamata la restaurazione statutaria, che dura veramente solo pochi mesi. Perché? Perché subito dopo l'armistizio viene trattato dal re, dal suo governo, e quindi fa ufficialmente terminare la guerra in Italia dalla parte sbagliata, ma non è che la fa riprendere dalla parte giusta, perché praticamente l'Italia dal punto di vista militare si disfa quasi completamente, scompare. Quindi. Ma quello che subito si manifesta, e questo è un elemento nuovo, è che accanto e in contrapposizione, per così dire, a questo specie di simulacro che era ormai il Regno d'Italia, il governo del sud, il trasferito sud perché appunto Roma era occupata dai tedeschi, ci sono forze politiche nuove, non tutte nuove nel senso formale, perché alcuni di questi partiti erano partiti storici che durante il fascismo erano stati messi fuori legge, quindi pena non avevano potuto più agire, i cui esponenti maggiori erano esuli o carcere o al confino. I partiti antifascisti si presentano sulla scena rivendicando il diritto e il dovere di guidare la ricostruzione dello Stato. Questo è l'elemento fondamentale dal punto di vista proprio, se voi prendete le leggi vedete che i primissimi decreti del governo Badoglio e del re sono appunto il tentativo di dire tutto continua come se fosse nel 1922 e si eleggerà la Camera dei Deputati eccetera, ma subito dopo i partiti dei fascisti che si riuniscono nel Comitato di Liberazione Nazionale pongono il problema che lo Stato italiano doveva essere diverso, che quindi il re era provvisoriamente l'esponente dello Stato che ancora esisteva come simulacro, ma che questo era solo provvisorio, che c'erano nuove forze che chiedevano, aspiravano e anzi pretendevano di governare il successivo andamento della la storia delle istituzioni. Infatti, se volete, il primo governo Badoglio, il primo, quello che si istituisce dopo il 25 luglio, è un governo praticamente militare, si potrebbe dire. Badoglio era un militare, un maresciallo, e gli altri esponenti di questo governo erano funzionari dello Stato o militari. Ma subito dopo l'8 settembre c'è questo nuovo protagonista che sono i CLM, che sono i partiti antifascisti, e questi pongono subito il problema. Ovviamente non potevano immediatamente, come dire, dare svolgimento alle loro intenzioni politiche, perché era la guerra ancora in corso, l'Italia era per l'appunto soggetta a due occupazioni, l'occupazione nazista fino a Roma compresa e l'occupazione che risaliva delle truppe alleate, che risaliva dal sud. Quindi lo stato di guerra impediva di fare i conti, per così dire, e di avviare la costruzione del nuovo Stato. E si ha quella che gli storici chiamano la tregua istituzionale, cioè i partiti antifascisti, riuniti nel CLN, primo, rivendicano di essere loro le forze che devono guidare lo Stato italiano. Secondo, che col re, che continua a esistere, si fa appunto un patto di tregua, cioè fino a quando non sarà finita la guerra, collaboriamo. Quindi il Regno d'Italia non entra in guerra contro la Germania nazista, formalmente parlando, e militarmente non fa praticamente nulla. Ho tentato di toglierlo, ma evidentemente non c'ero riuscito. Beh, partito un po' in ritardo. No, perché a una certa ora si inserisce, ma avevano detto di toglierlo, sono andato là ma non si è tolto. Quindi dicevo, la tregua è questa. I partiti antifascisti, che rivendicano di essere loro i protagonisti della nuova fase dello Stato italiano, momentaneamente si accordano col re, si parla di tregua proprio per questo, e si adotta quella che viene chiamata la prima decisione costituente, la decisione costituente. La decisione costituente è un decreto, una legge fatto col re, si mettono d'accordo subito dopo l'8 settembre, nel senso che il re, appena liberata Roma, lascerà il suo trono, se ne andrà dall'Italia, e che le funzioni e le leggi provvisoriamente verranno affidate al figlio, chiamato luogotenente del regno, cioè un sostituto del re. Questo è l'accordo che si realizza nel giugno del 1944, quando, liberata Roma, la cosa si può, il governo può tornare a Roma, e si può realizzare la prima fase di questa tregua, cioè non più il governo del re con i suoi militari, ma il governo dei partiti antifascisti. Quindi il secondo governo, che è ancora Badoglio, poi pochi mesi dopo sostituito da Bonomi, l'esponente invece del CLN, ma ha già al suo interno gli esponenti dei partiti antifascisti. E la prima decisione fondamentale è la decisione che davvero rompe la continuità costituzionale. Da quel momento si può dire che non c'è più lo Statuto Albertino, perché si dice che alla fine della guerra verrà eletta a suffragio universale, diretto e segreto, una assemblea costituente, suffragio universale, alla quale sarà dato il compito di determinare le forme del nuovo Stato. Questa è la decisione costituente, quindi la Costituzione non nasce allora, ma viene, vuol dire, preannunciata e concepita in quel momento. Il decreto del 18 giugno 1944, quindi la decisione costituente è quella che si chiama la prima Costituzione provvisoria. La Costituzione provvisoria resta il re, però si dimette, infatti dopo la violenza di Roma lascia il territorio nazionale e lascia le funzioni di legge in capo al figlio Umberto come luogotenente, cioè come colui che lo sostituisce, e si adotta questa decisione costituente. Si costituisce un nuovo governo, che è quello di Bonomi, appunto, formato questo punto solo da esponenti dei partiti antifascisti fino alla liberazione. Quindi quel passaggio 44-45, quell'estate e quell'inverno, sono la fase ultima di questa transizione, fino alla liberazione, o meglio penultima, perché transizione la liberazione, con la liberazione che tutti sanno il 25 aprile 1945, il Regno d'Italia ancora esiste, ma ormai nelle mani delle nuove forze politiche dell'antifascismo che si candidavano a governare, che anzi già governavano, avvia la fase della sua nuova ricostruzione. Quindi c'è finalmente la possibilità di dare vita a una Costituzione, alla Costituzione dello Stato italiano, non neanche più del Regno d'Italia, perché era messa in discussione che dovesse essere, che fosse ancora un regno, anzi, diciamo che probabilmente quando nel 44 si stabilisce che sarà l'Assemblea Costituente a determinare le forme del nuovo Stato, si dà quasi per scontato che non sarà lo Stato monarchico che conosceremo, perché i partiti antifascisti che facevano parte del Comitato di Liberazione Nazionale erano in grande maggioranza pro-repubblicani, quindi per il superamento della monarchia. In grande maggioranza, c'era anche i liberali, erano quelli ancora preferivano la forma monarchica, ma gli altri partiti, compresa la Democrazia Cristiana, non solo i partiti della sinistra marxista, erano per la Repubblica. Allora c'è quella nuova fase, l'ultima fase, l'ultimo elemento della transizione, quando nel 1946, ormai liberata Roma, quindi avviata la costruzione del nuovo Stato e per preparare l'Assemblea Costituente, la Costituzione Nazionale, eccetera, si dà vita alla legge elettorale per eleggere l'Assemblea Costituente, e si costruiscono ancora, si succedono nuovi governi dopo la liberazione, quello di Parri dal dicembre del 46, quello di De Gasperi, che poi rimarrà Presidente del Consiglio per molti anni, come si sa, e si adotta quell'altra decisione che dà vita ad un decreto che viene chiamato la seconda Costituzione provvisoria, perché la prima è quella che diceva si elegge l'Assemblea Costituente e questo deciderà tutto. La seconda invece, in questa seconda determinazione si decide di affidare la deliberazione circa il mantenimento della forma monarchica dello Stato, quindi in sostanza del Regno d'Italia sotto la corona di Carlo Savoia, o invece di passare alla forma repubblicana, di affidarla a un referendum. Questa decisione, come si sa, prese appunto nella primavera del 1946 e soprattutto presa anche sotto la spinta di una parte degli alleati, e in Italia, certo con grande favore, anzi probabilmente sotto la spinta di coloro che pensavano di poter mantenere ancora la monarchia, perché si pensava, e con ragione, che affidando alla Suprema Costituente, che sarebbe risultata espressa in grandissima parte dai grandi partiti antifascisti di massa che erano fondamentalmente repubblicani, avrebbe instaurato subito la Repubblica, mentre un referendum poteva anche dare risultati diversi. E in effetti, come si sa, il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 non è stato un referendum, come dire, di consacrazione di una decisione già presa, già scontata, tutt'altro. Riandiamo per un attimo ai risultati di quel referendum. Il referendum del 2 giugno 1946 vede intanto quasi il 90% dei votanti sugli elettori, pur in un paese praticamente semidistrutto, votavano il 90%, quando si pensa che oggi vanno a votare sì e no alle politiche del 70%, ecco, votano il 90%. Per la prima volta votano in sede politica le donne, perché nel 1945 c'era stato un decreto che aveva espressamente esteso il diritto di voto alle donne, e quindi aveva avviato la preparazione delle liste elettorali anche per le donne. Bene, di questo 90% degli elettori, i risultati sono che per il 51% dei votanti prevale la Repubblica, 51%, per il 43% deve essere la monarchia, il 43% vota per la monarchia, e il restante 6% sono voti nulli o voti bianchi, schede bianche, cioè elettori che non volevano scegliere, che comunque non sceglievano. Quindi, capite, il risultato del referendum è un risultato di stretta misura, potremmo dire, ma non è certo un risultato trionfale, scontato. Tanto. Questo che cosa dice? Dice ovviamente qual era la situazione del paese in quel momento, in cui c'erano le forze antifasciste e le pro-repubblicane erano al governo ed erano alla guida del paese, però il loro controllo sul paese era relativo, nel senso che non erano, erano forze, non dico di minoranza, ma certamente forze che non esprimevano ancora il grosso del tutto, tutto il grosso del, del, del paese. E d'altra parte, se si guarda appunto la distribuzione del voto referendario nelle diverse parti del territorio nazionale, si può vedere come l'Italia fosse divisa in due, perché se voi tracciate una linea retta a, a nord di Roma, a nord, poco a nord di Roma, al di sopra di questa linea retta tutte le circoscrizioni elettorali vedono prevalere nel voto la Repubblica, tutte, qualche provincia magari Cuneo è un po' più anarchica, ma come circoscrizioni elettorali tutte maggioranza repubblicana. Sotto la linea retta, diciamo, tracciata al nord di Roma, in tutte le circoscrizioni elettorali prevale la monarchia, a partire da Roma. Prevale la monarchia, cioè il voto monarchico è prevalente sul voto repubblicano, che vuol dire che c'era davvero una divisione del paese su, su questa prospettiva, prospettiva di instaurare una repubblica o di conservare, perché la monarchia c'era, quindi di conservare la monarchia. È stato molto significativo, perché perché appunto dice qual era lo stato della, della nazione, lo stato del paese in quel momento. Contemporaneamente, come si sa, si tengono le elezioni e le elezioni vedono ancora una volta, vedono un risultato che veniva considerato del tutto probabile, quindi scontato, cioè tre quarti circa dei deputati dell'Assemblea Costituente sono eletti appartenenti ai tre grandi partiti di massa antifascisti che, diciamo, stavano nel CLN, non da soli, ma stavano nel CLN. Il primo è la Democrazia Cristiana, che prende 207 deputati. Il secondo, il Partito Socialista, l'Unità Proletaria si chiamava allora, 115 deputati, e il terzo è il Partito Comunista, si chiamava così, 104 deputati. Quindi tre quarti dell'Assemblea sono formati da rappresentanti eletti da questi tre partiti. E poi ci sono gruppi minori, anche piccoli, insomma, per potremmo dire gli eredi dei liberali, l'Unione Democratica Nazionale e più a destra il Blocco Nazionale della Libertà, prendono rispettivamente 41 e 16 seggi. C'è questa nuova formazione, qualcuno lo ricorderà ancora, l'Uomo Qualunque. L'Uomo Qualunque è una formazione politica che oggi chiameremo populista, fondata da un commediografo, Guglielmo Giannini, che ottiene in poco tempo, è fondata allora, nel 46, ottiene in poco tempo un certo successo, ottiene 30 deputati. 5,3% dei voti per l'elezione dell'Assemblea Costituente, ed era una formazione che non era fascista, perché a quel punto i fascisti non si presentavano nemmeno più, ma era anti-antifascista, potremmo dire, cioè era una formazione che sosteneva che, guardate, forse qualcuno si ricorda ancora il simbolo, c'era il giornale L'Uomo Qualunque, il nome stesso è significativo, L'Uomo Qualunque vuol dire l'uomo del popolo, l'uomo della base, l'uomo che non conta, no? E il simbolo era, il simbolo che stava comparendo sul giornale era un tocchio che schiacciava un omino sotto L'Uomo Qualunque, appunto, che lo schiacciava. Il tocchio era lo Stato, sostanzialmente, quindi una visione anti-Stato, anti-potere, anti, cioè, L'Uomo Qualunque, il povero essere soggetto, quindi 30 deputati, no? Tiene un successo non da poco. Questo è il panorama politico nel momento in cui si forma l'Assemblea Costituente. E attenzione, in questa Assemblea, quindi, è un'Assemblea molto divisa, perché appunto tre quarti dei seggi sono i tre partiti, ma divisi in quel modo che ho detto, quindi nessun partito aveva il dominio dell'Assemblea. Non c'era un partito di maggioranza in Assemblea. E poi c'erano queste piccole formazioni, ma una maggioranza bisognava formarla. Intanto bisognava fare la Costituzione, questa, insomma, richiedeva comunque di essere, che ci fosse un consenso, almeno di maggioranza, evidentemente, perché altrimenti avrebbe potuto essere votata. Ma poi bisognava anche governare nel frattempo, siccome era stato previsto dalla Costituzione provvisoria che se avesse prevalso la Repubblica per i primi giorni la funzione di presidente di provvisorio della Repubblica sarebbe stata assunta dal Presidente del Consiglio, ma immediatamente dopo l'Assemblea Costituente avrebbe eletto un capo provvisorio dello Stato e si sarebbe dato vita di un governo che godeva la fiducia dell'Assemblea, quindi un governo parlamentare, questo governo effettivamente si forma ed è un governo del CLN, potremmo dire ancora, soprattutto con i tre grandi partiti di massa, ma si forma come maggioranza politica. Certo, col 75% dei seggi dell'Assemblea Costituente non era difficile fare una maggioranza politica, ma era una maggioranza formata da partiti molto diversi tra di loro, perché appunto nessuno, perché il primo partito, la Democrazia Cristiana, poteva vantare più della metà dei seggi e dei voti, e quindi era una maggioranza, potremmo dire, di coalizione, ma di coalizione anche tra diversi, tra molto diversi tra di loro. Poi c'erano tutti i piccoli. Ma ecco, provate a pensare a questo. Immaginiamo quella situazione: eletta l'Assemblea Costituente, bisogna anche non solo formare un governo, lo si forma in quel modo, ma bisogna appunto che una maggioranza si metta al lavoro, che l'Assemblea si metta al lavoro per fare una Costituzione. Allora si sarebbe potuto pensare di dar vita a una maggioranza, che so, coagulando la Democrazia Cristiana con piccole formazioni più di i liberali. L'Unione Democratica Nazionale, al limite arrivare fino alla fine all'uomo qualunque, si sarebbe potuto pensare. Numericamente c'era, numericamente, se voi sommate i seggi della Democrazia Cristiana e quelli delle piccole formazioni, anche se lasciate fuori l'uomo qualunque, considerandolo proprio un partito l'antipolitica, tanto per usare il termine di oggi, ci sarebbe stata una maggioranza, ma non è mica che si forma nel governo con quella maggioranza. E né tantomeno si lavora per fare la Costituzione con quella maggioranza. Che vuol dire che in realtà fin dall'inizio l'idea di Costituzione che nasce in Assemblea Costituente è l'idea di una Costituzione che rappresenti la nuova unità nazionale, cioè l'unità del paese attorno però alle nuove idee, la Repubblica. Quando questo prevale la Repubblica, e l'idea è unità, ma unità della nazione. L'idea dell'unità è fortemente presente nell'Assemblea Costituente fin dall'inizio, tant'è vero che c'è una cosa anche più simbolica, che il primo atto che fa l'Assemblea Costituente dopo aver eletto il proprio presidente dell'Assemblea, la persona di Giuseppe Saragat, che allora era uno degli esponenti, dei maggiori esponenti del Partito Socialista, dell'Unità Proletaria, quindi era il secondo partito in Assemblea. Quindi secondo la convenzione il primo partito aveva la carica di Presidente del Consiglio, De Gasperi, il secondo partito aveva la carica di Presidente dell'Assemblea, e appunto, dopo aver eletto il proprio Presidente, l'Assemblea era chiamata a eleggere il capo provvisorio dello Stato, cioè a eleggere una personalità che rappresentasse lo Stato nella sua unità, nella sua interezza, nella fase di predisposizione della Costituzione. E chi elegge l'Assemblea Costituente col voto? Quasi unanime, e quindi in particolare col voto dei tre grandi partiti di massa alla carica, Enrico De Nicola, che era un avvocato napoletano, appunto del sud, che era, si era espresso in prevalenza per la monarchia, e egli stesso monarchico, quindi di simpatia monarchica. Quindi l'elezione di Nicola sta proprio a significare che qua si deve costruire la nuova Italia sulla base di una nuova unità in cui le grandi forze politiche dell'antifascismo e della resistenza confluiscono, pur essendo diverse tra di loro, e riconoscono che questa nuova unità va costruita per tutto il paese, quindi che non è l'Italia repubblicana, l'Italia progressista, l'Italia antifascista, l'Italia contro l'altra Italia, no, è tutta l'Italia. Quindi l'idea dell'unità nazionale è l'idea forza che sta sotto alla nascita stessa dell'Assemblea e della Costituzione. È simbolico, se volete, però conta. Voi sapete che quando si elegge un capo dello Stato non è che sia indifferente da dove lo si prende, quello certamente ha avuto questo significato. Il lavoro costituente nasce in questo clima, nasce con questa idea forza, cioè una nuova unità nazionale, ma per costruire e dare vita a una Costituzione che rappresentasse la nuova Italia, tutta intera, la nuova Italia. Quindi si costituisce la Commissione, la lettera di 75, col compito di redigere il progetto di Costituzione, poi sarà stato discusso in Assemblea. La Commissione lavora per mesi, dal luglio del 1946 fino al gennaio del 1947 è presente il 31 gennaio del 1947 il progetto di Costituzione, che ha già in grandi linee riflette quello che poi sarà il testo della Costituzione, ma c'erano molte diversità, non poche cose sono cambiate dal progetto al testo finale. E c'è il dibattito, il grande dibattito dell'Assemblea dal gennaio marzo del 1947 fino al 22 dicembre del 1947, quando viene approvato il voto finale del più dell'80% dell'Assemblea vota il testo della nuova Costituzione. Quindi diciamo, c'è ancora da ricordare che in quella fase, dal punto di vista politico, no, le cose non è che sono tanto lisce, tanto facili. È vero che si erano costituiti governi, il governo dei Gasperi, che conteneva al suo interno gli esponenti dei tre maggiori partiti, oltre ad altri. Ma questa coalizione di governo, politicamente, dal punto di vista dell'attività di governo, non è affatto, come dire, scontata, è vita facile, perché, come si sa, invece, a metà del 1947, quindi quando ancora la Costituzione era in fase di discussione, di elaborazione, viene meno quella maggioranza. Si costituisce un nuovo governo, il terzo governo di De Gasperi, che non ha più al proprio interno i due partiti della sinistra marxista, i socialisti. Primo tempo nel gennaio, in febbraio, lui c'è ancora un governo con i tre partiti. Dal maggio del 47 il nuovo governo De Gasperi non è più un governo formato da tutti i partiti antifascisti, sono Democrazia Cristiana, sì, diciamo, i scissionisti dei socialisti, cioè i socialdemocratici, che nel frattempo si erano staccati dal partito socialista, non più i comunisti, e poi i repubblicani, e poi insomma potremmo dire una maggioranza di tipo centrista, anche con dei tecnici, diciamo, il governo in cui comincia a far parte dei Naudi. Quindi un governo, una maggioranza di governo diversa da quella dei tre partiti, ma questa non è la maggioranza che lavora per dare vita alla Costituzione, non è quella la maggioranza, è la maggioranza per il governo, ma per il lavoro costituente continua sulla base dell'accordo fondamentale fra i tre grandi partiti di massa, compresi quindi i due partiti della sinistra marxista, che nel frattempo erano usciti dalla maggioranza di governo. Questo è un dettaglio non di poco conto per capire la storia del testo costituzionale, che non è la storia della maggioranza che cambia, la maggioranza cambia la Costituzione, no, non cambia affatto la Costituzione, resta quella perché è stata fin dall'inizio voluta come espressione di tutte le grandi forze del paese, in particolare di queste tre maggiori forze che erano tre quarti dell'Assemblea. Questo è, diciamo, il dato di fondo, il connotato del lavoro costituente, cioè la ricerca di un terreno comune, in particolare comune alle tre grandi forze, quindi sia alla Democrazia Cristiana, che era il partito che assumeva in toto l'idea della nuova Costituzione da un punto di vista democratico, ma che sul piano politico non aveva certo piena concordia con i programmi dei due partiti della sinistra marxista, e i due partiti della sinistra marxista, comunista, socialista e comunista, anche dopo la scissione socialdemocratica. Bene, l'accordo c'è, ma viene cercato il terreno comune, il terreno costituzionale comune. E come viene trovato? Su che cosa viene trovato il terreno comune costituzionale? Questo è il punto chiave. Cioè, dobbiamo essere d'accordo, questa era l'idea, dobbiamo creare una. Nessuno si è mai sognato di fare una Costituzione che avesse solo l'appoggio della maggioranza centrista o tantomeno di un centrodestra. Cioè, era chiaro che le forze che dovevano convergere sul terreno costituzionale erano le tre grandi forze, quindi se vogliamo dire due grandi schieramenti, lo schieramento della Democrazia Cristiana e lo schieramento dei due partiti della sinistra marxista. E su che cosa viene cercato l'accordo? Che si trova poi, perché poi la discussione sul testo costituzionale va avanti fino a dicembre, ci sono anche dei voti su singoli argomenti, dei voti contrastati, in cui non sono sempre d'accordo tutti i partiti, cioè, tutti ricordano per esempio nel voto sull'articolo 7, quello che si riferisce ai rapporti per lo Stato e la Chiesa, che conferma e richiama il concordato lateranense, i patti lateranensi, in quel voto confluiscono nel senso positivo la Democrazia Cristiana e molti altri partiti, ma confluisce il Partito Comunista, non confluisce il Partito Socialista in quel momento, in quel voto, ma il Partito Comunista sì, ma questi sono episodi su singoli argomenti, ma il tessuto di base era sempre lo stesso, cioè l'accordo dei tre grandi partiti sulla Costituzione. Quindi il terreno comune viene cercato prima di tutto, cioè c'è la ferma convinzione di tutti che quello era il modo di costruire la nuova Costituzione, era quello e non un altro, non quello di cercare una maggioranza numerica in Parlamento, che teoricamente avrebbe potuto esserci, e che il terreno comune andava trovato nei principi, in certi principi costituzionali. Qual è questo terreno comune, se ci pensa bene? Certo, l'antifascismo, su questo l'accordo era anche più ampio di quello dei tre grandi partiti. L'antifascismo che voleva dire non più tutto quello che il fascismo aveva rappresentato in termini costituzionali, cioè il negamento dei principi costituzionali, il negamento della libertà, il negamento del pluralismo politico, il negamento dell'antidemocrazia. Su questo l'antifascismo è il primo collante, per così dire, il primo elemento comune che sta a base della Costituzione. Tutto quello che il regime fascista aveva rappresentato in termini di rottura con il costituzionalismo, con il filone storico del costituzionalismo, questo va rinnegato. E quindi si ritorna a riagganciarsi alla storia del costituzionalismo. Ma non basta, perché il terreno comune non è soltanto il recupero delle prime idee costituzionali, libertà, democrazia, ma è anche l'idea che lo Stato nuovo doveva nascere su basi nuove ed essere lo Stato in cui tutto il popolo si potesse riconoscere, comprese quindi quelle classi, quelle categorie, quei gruppi che erano rimasti fuori dalla storia del costituzionale del Regno d'Italia, che il Regno d'Italia anche nell'era prefascista non aveva mai visto l'ingresso al potere nel contesto della democrazia delle nuove forze, espressione delle nuove classi. Insomma, la questione sociale si era tradotta, si traduceva in politica, ma l'Italia non aveva potuto affrontare quella questione come invece che si è fatto in Germania con la Repubblica di Weimar e in altri paesi. Non, l'idea insomma della ricostruzione di uno Stato che riconoscesse la novità dell'ingresso delle nuove, delle classi lavoratrici, l'ingresso quindi un'idea di uno Stato sociale anche, in Italia non aveva potuto neanche cominciare a nascere. Si ripropone, si propone nel momento costituente, cioè quello, se voi prendete, ci sono anche grandi discorsi fatti dall'Assemblea Costituente che rappresentano bene quello che si voleva fare e che si è fatto. E se voi prendete per esempio alcuni discorsi, se prendete i discorsi di esponenti anche molto illustri, molto ascoltati della vecchia classe politica prefascista liberale, che c'era Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverionitti, Benedetto Croce, erano illustri esponenti della classe politica pre-fascista, liberale, che stavano in Assemblea Costituente, erano eletti non nei partiti di massa, ma erano eletti nell'Unione Democratica Nazionale. E quali sono le loro idee? Se voi rileggete i loro discorsi, i discorsi generali di Vittorio Emanuele Orlando o di Nitti alla Costituente, vedete che non è, loro non si riconoscono nella nuova Costituzione, poi la votano, sanno che quella è il futuro dell'Italia, ma non la, cioè, i loro discorsi fanno anzi forti critiche all'impianto della Costituzione. Per esempio, per dirne una, l'idea di inserire nella Costituzione, di parlare dei diritti sociali, non solo dei diritti di libertà tradizionali, non trovava d'accordo uomini come Orlando, insomma, cosa vuol dire fermare queste cose? I diritti sociali vuol dire, è la nuova frontiera dei diritti, cioè lo Stato non è soltanto il garante di libertà negative, per cui si assicura che il potere non entrerà in casa tua, non ti arresterà arbitrariamente, non violerà il tuo domicilio, ti consentirà di esprimere il tuo pensiero senza reprimerti, ma lo Stato è anche il promotore di una società più giusta. La giustizia sociale, cioè la costruzione di un assetto economico-sociale più giusto. Quando voi leggete l'articolo 3 della Costituzione, al secondo comma, lui lo dice con l'espressione perfettamente risale in gran parte a Lelio Basso questa formulazione, ma fu voluta, fu condivisa. È compito della Repubblica eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, compito della Repubblica eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, la libertà e l'eguaglianza erano le due premesse già dalla rivoluzione francese, libertà e eguaglianza, no? Limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono la piena realizzazione della persona umana, lo sviluppo, pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori, si dice, tenendo, poi diciamo in che senso si parla di lavoratori di lavoro nella Costituzione, alla organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questa espressione, un comma della Costituzione, vi dice come l'idea di Stato che sta alla base della Costituzione non è più l'idea di Stato del prefascismo, di uno Stato che garantisce le libertà, ma che non entra nella dialettica sociale, non si interessa come la società si dividono diciamo, i compiti e la ricchezza e il potere di fatto, ma invece è uno Stato che ha come suo compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, quindi ha come suo compito quello di costruire una società diversa, una società più giusta. E voi potete dire, vabbè, bella parola, ma come si fa? Che cosa vuol dire più giusta? Tante specificazioni della Costituzione, ma certamente c'è questa idea che il nuovo costituzionalismo non è più solo il costituzionalismo liberale delle origini, rispetto delle libertà dell'individuo e quindi limiti al potere dello Stato, ma è anche compito attivo delle istituzioni di costruire una società, cambiando quello che viene ritenuto meno giusto, quindi la giustizia sociale, e di cui quindi che so, l'affermazione dei diritti come diritto al lavoro, diritto all'istruzione, diritto alla assistenza sociale, diritto alla previdenza, che sono quelli che noi chiamiamo i diritti sociali, cioè i diritti la cui soddisfazione non viene solo da un atteggiamento negativo del potere. La polizia non ti può arrestare, quindi tu hai il diritto alla libertà personale. La polizia o il governo, chiunque altro, non ti può condannare perché hai espresso un'opinione libera, libertà di manifestare il pensiero. Ma sono diritti la cui soddisfazione richiede che si faccia qualche cosa nei confronti dei loro titolari. Il diritto al lavoro, di cui parla la Costituzione, articolo 4, è inteso così. Cioè tutti i cittadini, tutti hanno diritto al lavoro, e però si sa che il lavoro non è una cosa che si crea per legge, si crea per decreto, e che quindi dipende da una serie di condizioni nelle quali si costruisce l'assetto economico e sociale della Repubblica, e quindi si aggiunge subito, si dice che la Repubblica riconosce il diritto al lavoro, si aggiunge che la Repubblica opera per rendere effettivo, promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto, promuove le condizioni, le parole contano, promuovere vuol dire qualcosa che non c'è ancora, bisogna crearla, le condizioni per rendere effettivo, cioè il diritto c'è ma non è ancora effettivo, bisogna renderlo effettivo creando le condizioni, quindi promuovere. E poi si aggiunge, sempre in questo articolo 4, che è un articolo di fondo che esprime benissimo il senso, la concezione che sta alla base della Costituzione, non solo quindi il lavoro è un diritto di tutti e si devono promuovere le condizioni per renderlo effettivo, rimuovendo quegli ostacoli di ordine sociale di cui parla l'articolo 3 al secondo comma, ma si dice anche che è dovere di tutti svolgere un'attività o una funzione, quindi il lavoro inteso in questo senso, non il lavoro manuale o intellettuale, ma comunque il lavoro in senso tecnico, un'attività o una funzione che secondo le proprie possibilità, le proprie scelte, quindi certamente non esiste il lavoro forzato, ma un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Queste sono le parole della Costituzione, parole assolutamente importantissime per dirci qual è il pensiero che sta sotto. Promuovere progresso. Cioè, noi sappiamo che oggi la società non è quella che vorremmo e aspiriamo a costruirla una nuova società più giusta. Quindi riconosciamo costituzionalmente che ci sono dei diritti che, per essere resi effettivi, per essere implementati fino in fondo, richiedono cambiamenti, riforme, poi oggi diremmo, ma insomma cambiamenti della struttura economica e sociale, e ci impegniamo a fare questo. Ecco, questo è l'altro grande punto di convergenza delle forze politiche alla Costituente: l'antifascismo, cioè rimuovere tutto ciò che il fascismo aveva voluto significare di negazione dei principi liberal democratici, quindi del costituzionalismo, e impegno per costruire una nuova società più conforme anche ai diritti di tutti, quindi anche ai diritti sociali, quindi il diritto al lavoro, ma è lo stesso per il diritto all'istruzione. Tutti, la scuola è aperta a tutti, tutti hanno diritto, anche là, poi si dice la Repubblica promuove le condizioni per realizzare questo, cioè si dice sempre ci sono dei diritti che richiedono di essere promossi, di essere realizzati attraverso un'attività che si sa non è facile, non è, perché ci sono delle condizioni materiali, problemi di risorse, va fatto. Ecco perché la nostra è una costituzione, come si dice, programmatica, cioè che non è la sanzione di qualcosa che è già avvenuto, che è già conquistato definitivamente. Uno può dire, vabbè, la democrazia, l'attività degli organi fondamentali, le libertà fondamentali, questo è già conquistato e si tratta solo di garantirlo, c'è tutto il tema delle garanzie, ma è anche una Costituzione che promette per il futuro, è una promessa per il futuro, la rivoluzione promessa, qualcuno ha detto, insomma, ma una promessa per il futuro vuol dire promessa e impegno, ecco perché è una Costituzione programmatica. Queste norme programmatiche, che per tanto tempo sono sembrate norme quasi senza senso, no? Dal punto di vista giuridico costituzionale, sono invece una delle anime della Costituzione, tant'è che, come si sa, mentre nei primissimi anni dopo la Costituzione, dopo la vetta della Costituzione, la giurisprudenza pensava che questi diritti sociali, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla previdenza sociale, eccetera, fossero promesse politiche sostanzialmente e quindi prive di valore giuridico costituzionale, e quindi si diceva norme programmatiche, la Corte di Cassazione definiva norme contrapposte alle norme precettive, cioè quelle che contengono dei comandi già azionabili, queste sono norme programmatiche e a chi spettava realizzare questo programma, secondo questa giurisprudenza, spettava solo al legislatore, quindi era compito della politica fare queste cose. Beh, invece, andando avanti, e soprattutto con l'avvento della Corte Costituzionale, si è riconosciuto che anche queste norme programmatiche possono avere e hanno un valore giuridico, nel senso di consentire di commisurare ad esse le determinazioni legislative e quindi le scelte politiche. Commisurare nel senso che se fai una nuova legge può essere controllata sotto il profilo della sua costituzionalità, non solo per vedere se rispetta la libertà personale, se rispetta la libertà personale del pensiero, se rispetta l'uguaglianza formale, eccetera, ma anche per vedere se rispetta quei programmi costituzionali e se non va in direzione opposta, va contro. Quindi la legge può essere incostituzionale perché viola qualcuna di queste indicazioni programmatiche, ma che valgono, sono vincolanti per il legislatore. E quindi non poche volte, anche se la Corte Costituzionale ovviamente non può, come dire, che so, destinare nuove risorse finanziarie all'assistenza sociale, ma può dire che una certa legge che funziona in un certo modo, se va in direzione contraria, è incostituzionale. E quindi può, ecco che il valore della Costituzione, quindi non è più soltanto il valore di una promessa interamente adempiuta. Abbiamo promesso di conquistare la libertà, l'abbiamo riconquistata, costruiamoci intorno delle garanzie e basta, no? È anche una promessa che vale costituzionalmente per il futuro, quindi un programma. Naturalmente i programmi per il futuro non sono affidati nella loro realizzazione a dei giudici, perché sennò era un punto, invece che eleggere un governo democratico, mettiamo delle persone che realizzano questi programmi. Non sono affidati, quindi non sono il legislatore, la politica ha il compito ha fondamentalmente il compito di agire per costruire questi, realizzare questi programmi, ma questo compito non solo lo deve svolgere, quindi non può andare in direzione contraria. Una legge, una politica che va in direzione contraria è incostituzionale, e comunque rappresenta un impegno attorno al quale tutte le forze politiche che si riconoscono nella Costituzione sono impegnate. Poi dice, ma cosa vuol dire costruire una società più giusta? Come si fa a garantire il diritto del lavoro? Come si fa a garantire il diritto all'istruzione? Come si fa? Naturalmente qua comincia il terreno del confronto politico. Cioè, uno può dire, ma io ritengo che il meglio di tutti sia un certo sistema economico o invece un altro sistema. Fermo restando che gli obiettivi devono essere quelli, per esempio di assicurare il diritto al lavoro, poi si può liberamente scegliere di fare una politica che riduca o non incrementi l'occupazione. No, la politica dovrebbe essere comunque mirata alla piena occupazione, quindi a garantire il diritto al lavoro, come vengono in campo i più diversi programmi politici. Quindi il confronto politico è sul modo, sul come, ma sugli obiettivi, sui traguardi non dovrebbe essere, non c'è confronto politico, perché è la Costituzione che ci dice già quali sono questi traguardi. Quindi quando qualche volta sembra che in politica emergano obiettivi, traguardi non solo diversi, inferiori, ma contrari ai programmi costituzionali, là siamo di fronte a una politica anticostituzionale. È sperabile che questo mai diventi vita vissuta del paese. Mantenersi fedeli alla Costituzione vuol dire anche mantenersi fedeli a questi programmi, ovviamente facendo tutte le scelte e tenendo conto che le cose reali cambiano, che la storia cammina, che non si può immaginare di realizzare un programma politico valido nel 1947 o nel 1949 nel 2019, quindi ci saranno tante cose diverse, che c'è molto da discutere, che c'è molto da confrontarsi, ma l'accordo di fondo dovrebbe essere: vogliamo comunque realizzare la Costituzione, vogliamo comunque garantire una società più giusta, sì o no? Una politica che nascesse sulla base della premessa per cui in politica esistono soltanto, nella società esistono soltanto interessi diversi, cioè gli interessi di un gruppo e gli interessi di un altro gruppo. Se io rappresento quel gruppo, io perseguo quegli interessi e non mi interessa, anzi, se questi interessi per essere promossi devono soffocare altri interessi, prevalere su altri interessi, io mi batto perché così avvenga. Una politica che nascesse dall'idea che si devono difendere interessi di gruppo, non interessi generali di tutti, ma interessi di gruppo, combattendosi con le forze che ciascuno riesce ad avere, magari anche attraverso lo strumento del consenso, lo strumento democratico del consenso, non è una politica costituzionale, conforme alla Costituzione. E conforme alla Costituzione è una politica che vuol perseguire quei traguardi, scegliendo le forme, scegliendo i modi, scegliendo le vie, e quindi ci si confronta con gli altri, che non sono, guardate, non si dovrebbe mai usare l'espressione avversari politici, dovrebbe essere gli interlocutori, gli altri. Insomma, se una nazione, uno Stato ha una sua identità, e l'identità è questa data dalla Costituzione, non è pensabile che in esso si creano dei gruppi che non hanno niente in comune fra di loro, perché se così fosse ci si conta e il gruppo più numeroso distrugge quello meno numeroso, ma questo non è democrazia costituzionale. La democrazia non è prevalenza della maggioranza, è l'interesse di tutti, che certo si costruisce attraverso il consenso, quindi anche il confronto. Oggi queste parole vanno ripetute perché qualche volta sembra che si vada perdendo questa idea, che non, la politica in fondo fa delle scelte, le scelte sono scelte di interessi, ognuno va per i fatti suoi, si tratta di contarsi, chi riesce ad avere più voti fa lui, e lui non è così. Ma questo va combattuto non solo da parte di chi in certe fasi sembra affermare interessi prevalenti, esprimere una maggioranza e pretendere questa maggioranza, ma anche da parte di chi invece, essendo in minoranza, aspira a trasformarsi in maggioranza, ma la maggioranza non dovrebbe mai essere una maggioranza contro e basta. Non esiste una maggioranza contro. Dato che oggi, per esempio, qualche volta sembra che si dica c'è un governo giallo-verde, l'importante è essere contro, tutti uguali. No, è sbagliato dal punto di vista democratico questo. La democrazia è confronto fra gruppi che hanno idee diverse, programmi diversi, ma che riconoscono e mantengono un terreno comune. Perché se non cadesse il terreno comune, non ci sarebbe più la politica democratica, sarebbe allora un confronto di forze, che è un'altra cosa, e sarebbe molto negativo. Io vorrei solo finire citando un altro aspetto della Costituzione. Ho lasciato fuori tutto quello che riguarda l'assetto dei poteri, la divisione dei poteri, le garanzie, il sistema parlamentare, potremmo eventualmente parlarne, ma insomma. Ma l'apertura verso al di fuori della comunità nazionale, con l'apertura internazionale, anche questo è uno dei connotati forti della nostra Costituzione, anche questo voluto da quella assemblea costituente, che lavorava in quella direzione. Voi sapete che diciamo, le Costituzioni, così anche la nostra, sono Costituzioni nazionali, cioè partono dalle idee di una nazione che si costituisce in Stato e che realizza la propria vita. E gli altri stati cosa sono? Gli altri stati, secondo la concezione vecchia, tradizionale, anche del diritto internazionale, gli stati sono tanti soggetti uguali fra di loro, nessuno può vantare superiorità rispetto agli altri, ma che si confrontano tra pari. Non c'è nessuno al di sopra dello Stato, si dice lo Stato è sovrano. Quante volte sentite questa espressione? Rivendichiamo la sovranità dello Stato. Lo Stato è sovrano, nel senso che fuori dallo Stato, al di sopra dello Stato, non c'è nessuno. Dentro lo Stato, il sovrano ha le sue regole, ha la sua costituzione, quindi i poteri sono limitati, i poteri sono distribuiti, eccetera, eccetera. Ma fuori dallo Stato non c'è nessuno che possa imporre nulla allo Stato. Lo Stato è sovrano. E allora il mondo è fatto di stati sovrani, quasi 200. Stati sovrani che vuol dire stati pari tra di loro. E nel vecchio diritto internazionale questa situazione di stati sovrani, per l'appunto, dava luogo alla conseguenza che i rapporti fra gli stati, quindi le regole internazionali, fossero frutto o di contratti fra pari, i trattati sono contratti, se io con un altro mio pari voglio fare un contratto e lo faccio, ma sono io che mi vincolo e mi vincolo a quello che dico nel contratto, o di contratti, oppure della guerra, perché nel diritto internazionale classico se i contratti non si stipulano, se i trattati non si riescono a stipulare, o se vengono violati, o se qualcuno rivendica violazioni, l'unico rimedio giuridico è la guerra. La guerra è lo strumento dei rapporti fra gli stati. Questa idea è l'idea dominante, diciamo, l'unica idea che caratterizza il diritto internazionale fino alla Seconda Guerra Mondiale. È solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che si affaccia l'idea di un diritto internazionale non più basato sulla piena sovranità degli Stati. E quando si fonda l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui carta parte dal presupposto proprio che gli Stati debbono rinunciare ad essere pienamente sovrani e collaborare fra di loro, dar vita ad un'autorità sovrastatale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è un'autorità sovrastatale che ha delle regole che si impongono ai singoli stati e in cui le controversie non sono più affidate ai rapporti di forza, ma sono affidate all'Organizzazione Internazionale. Bel sogno, sta sulla carta, ma pensate che cosa ha significato dal punto di vista della cultura collettiva il passaggio da una fase in cui era scontato che tra gli stati soltanto trattati e guerre, null'altro. E la guerra era qualcosa di naturale, perché laddove non si andava d'accordo bisognava ricorrere alla forza, no? Era naturale. Passare invece a un'idea in cui no, tra gli stati non è la forza, non è la guerra che deve realizzare i rapporti fra gli stati, che deve governare i rapporti fra gli stati, ma è la collaborazione e un'autorità sovrastatale che governi tutti e ancora una volta tenga. Poi quella stessa cosa che avviene nelle società nazionali, in cui si dice, si ammette pacificamente che c'è un'autorità, questa autorità che riguarda tutti, che comanda su tutti, che deve fare l'interesse di tutti, quindi non un'autorità dispotica. E lo stesso anche a livello internazionale. Naturalmente questa è, come dire, poco più che una, un ideale adesso, ma sta nella Carta dell'ONU, sta scritta nella Carta dell'ONU e sta anche tradotta in alcuni primi passi che sono stati fatti, perché quando l'ONU, ancora nel 1948, fa come primo suo atto, emana, proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dice proprio questo, che i diritti, quei famosi diritti che nell'ambito delle società nazionali erano stati rivendicati e diventavano la materia della Costituzione, i cittadini che hanno diritto di eccetera eccetera eccetera, quei diritti non sono diritti dei cittadini di questo o di quello Stato, per esercitarsi solo nei confronti del singolo, del rispettivo Stato, ma sono diritti universali. E allora si dice che l'articolo 1 della Dichiarazione Universale, cioè ogni essere umano, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, liberi ed uguali, sono dotati di ragione e di coscienza e operano fra di loro in spirito di fratellanza. Quindi l'idea dei diritti universali. Il diritto universale vuol dire che tutti, quindi anche tutti gli stati, tutte le autorità statali, riconoscono che ci sono dei diritti che non sono solo diritti dei loro cittadini, sono i diritti degli esseri umani. Questo è una grande idea. Se volete, c'era già in Nuce, che sono la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, che diceva: siamo convinti che ci siano verità di sé evidenti, tra cui quella per cui tutti gli esseri, tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati del loro creatore di alcuni diritti inalienabili. Però la realizzazione di queste idee per molti secoli, anche dopo la nascita del costituzionalismo, è stata una realizzazione conformata all'interno delle comunità nazionali, cioè valeva all'interno delle comunità nazionali, ma mai si pensava che gli stessi diritti potessero essere rivendicati da un essere umano che non è componente della comunità nazionale, quindi un altro, uno straniero. E infatti le regole per quanto riguarda gli stranieri erano, gli stranieri si trattavano così come prevedeva i trattati, per esempio clausole di reciprocità: se tu concedi ai miei cittadini di avere il loro culto, di professare pubblicamente il loro culto, se tu paese islamico, allora io paese cristiano posso ammettere che anche i tuoi cittadini islamici possano praticare liberamente il proprio culto, ma se tu paese islamico mi neghi ai tuoi cittadini cristiani la libertà di culto, io, Stato cristiano, nego la libertà di culto ai tuoi cittadini musulmani. È un modo di ragionare che certe volte sentiamo fare, che è completamente contrario all'idea dell'universalità dei diritti, perché i diritti, per esempio di libertà religiosa, non sono diritti di questo, dei cittadini di questo o di quello Stato, sono diritti universali. Quando il presidente americano Roosevelt nel 1941, prima ancora che l'America entrasse in guerra, ha pronunciato quel famoso discorso detto delle quattro libertà per indicare, voleva spingere la nazione americana a, sostanzialmente, ad appoggiare gli alleati, quindi entrare in guerra in sostanza, come poi è stato fatto, ha detto queste parole, diceva: noi vogliamo costruire un mondo in cui le quattro fondamentali libertà siano assicurate in tutto il mondo, diceva, in tutto il mondo, non in America o in Inghilterra, in tutto o in Europa, in tutto il mondo. E quali erano le quattro fondamentali libertà che diceva? La libertà del pensiero, tradizionale, la libertà liberale, diciamo così, la libertà di religione, perché appunto quante volte nella storia degli uomini invece le religioni sono state elemento di, non solo di divisione ma anche di guerra, la libertà dal bisogno, dal bisogno, che diceva lui, traduceva così: ogni individuo deve avere i mezzi necessari per vivere, quindi quello che noi oggi chiameremo i diritti sociali. Se tu non hai da vivere, perché non hai da mangiare, non hai il lavoro che ti dà da vivere, o non hai istruzione, non sono riconosciuti i tuoi diritti. Bene, e diceva: questi diritti, queste libertà devono essere assicurate in tutto il mondo. Quarta libertà, la libertà dalla paura, cioè dall'aggressione, compresa la guerra. Allora, ancora una volta, siamo di fronte a ideali, sì, siamo di fronte a ideali, che però hanno cominciato a trovare traduzione anche scritta, diciamo così, nella Carta dell'ONU, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle convenzioni universali, le convenzioni di ONU sui diritti, che sono diritto internazionale, quindi che per esempio per la nostra Costituzione sono vincolanti, e il vincolo può anche passare attraverso sentenze di giudici internazionali, per esempio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che giudica sulla base di questo nuovo diritto internazionale. Quindi l'apertura internazionale è un altro dei grandi temi di fondo della nostra Costituzione, l'articolo 11, che non solo dice il rifiuto della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, che è la premessa che ho detto della nascita dell'ONU, ma anche l'accettazione delle limitazioni di sovranità, si dice limitazioni di sovranità. L'Italia accetta in condizioni di parità con gli altri stati le limitazioni di sovranità necessarie per che cosa? Per dare vita a un ordine internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. La pace, certo, ma non solo la pace, perché la pace può anche essere la pace del vincitore che distrugge gli altri. La pace e la giustizia fra le nazioni. Allora, l'idea dei diritti universali, l'idea che ci sono diritti di cui ogni comunità deve farsi carico, non solo per i propri componenti, ma per tutti gli esseri umani, è la nuova idea del costituzionalismo. Ed è questa che sta alla base dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Quindi, se vogliamo ritornare alle radici e riconoscere il valore di fondo della Costituzione italiana, non possiamo dimenticare anche questo aspetto. Che come si traduce poi questo? Beh, naturalmente qua tutto il cammino sarà ancora lungo, perché ancora oggi noi sappiamo che purtroppo l'ONU non è riuscita ancora ad avere un controllo effettivo delle controversie fra gli stati, e il monopolio della forza, come secondo la carta dell'ONU gli stati non dovrebbero usare la forza, le armi, se non per l'autodifesa, un po' come nella legittima difesa, non quella di Salvini ma quella che sta nel codice penale, se uno è aggredito può difendersi, e lo stesso se uno stato è aggredito può difendersi, ma secondo la carta dell'ONU, al di là di questo, gli stati non dovrebbero usare la forza dovrebbe essere impiegata dall'autorità sovranazionale a cui favore a cui gli stati accedono limitando la propria sovranità. Quindi questo concetto di limitazione, oggi si parla di sovranismi, si parla di recupero di libertà, di sovranità nazionale, ma signore, se non teniamo presente che questo è il futuro secondo, diciamo, le prospettive costituzionali, il futuro cioè di un superamento della sovranità assoluta degli stati e quindi anche del riconoscimento dei diritti di tutti gli esseri umani, e quindi per esempio condizione di un indicatore straniero, tutte queste cose qua, e non se ne esce. E per terminare con un tema di attualità, io penso che il tema delle migrazioni non può essere visto dal punto di vista solo nazionale, dicendo noi non abbiamo interesse, o abbiamo interesse, qualcuno dice abbiamo interesse perché ci mancano i lavoratori manuali, quindi abbiamo interesse alle migrazioni, qualcuno dice no, non abbiamo interesse perché portano via il lavoro. Non è questo il tema. Se le migrazioni sono fenomeni di massa che nella storia dell'umanità sono sempre avvenute e che esprimono anche il bisogno di gruppi umani più o meno numerosi di spostarsi sul territorio alla ricerca delle condizioni di vita che assicurino loro quei diritti umani universali, sì o no? Allora, è possibile immaginare che una comunità, un gruppo dica a me non interessa, io mi chiudo nelle mie frontiere e penso soltanto a far vivere il meglio possibile i componenti della mia comunità? Non è una concezione costituzionalmente conforme, non è valida questo. Tu devi ragionare, ovviamente devi governare questo fenomeno, puoi dire vabbè, allora chiunque entri io non metto più confini, non lo si può fare, almeno oggi non è possibile, ma non puoi omettere di governare quei fenomeni, quindi per esempio di collaborare ancora una volta sul piano internazionale. E quindi per esempio per quanto ci riguarda sul piano prima di tutto europeo, il continente destinato ad essere meta di immigrazione, no? Un tempo l'Italia, che lo sappiamo benissimo, è stato paese di immigrazione per tanti, tanti decenni, oggi l'Europa è forse la meta della maggiore pressione migratoria, perché è la zona più sviluppata, è la zona più ricca, eccetera. Ecco, allora non si può omettere di assumere questo problema al livello giusto, che vuol dire il livello dell'intera comunità internazionale e dell'Europa, per governarlo. Va bene, dobbiamo salvare le vite in mare, sicuramente è vero, ma prima ancora dobbiamo preoccuparci del fatto da dove vengono. perché vengono. Se non ci sono delle strade, se non bisogna creare delle strade legali per venire in Italia, non limitarci a salvare le vite nell'ultimo miglio, per così dire. Questo è ovviamente un grossissimo problema. Non possiamo, adesso io non posso sicuramente entrare nel dettaglio, ma l'idea del governo delle politiche migratorie non può che avere queste radici. Le migrazioni sono un fenomeno di massa, va governato, ma non attraverso sistemi di chiusura nazionalistica. Dobbiamo quindi investire le autorità anche sovranazionali. Di recente a Marrakesh in Marocco si è riunita una specie di convenzione per dar vita a un documento che è stato chiamato Global Compact per le migrazioni, cioè un patto universale per le migrazioni. Non è ancora un trattato, è per adesso un documento di orientamento. Lo Stato italiano, il governo italiano, cosa ha fatto? Si è tirato indietro, vedremo, dobbiamo andare a vedere in Parlamento. Questo è un atteggiamento molto pericoloso e negativo, perché se tu dici non deve esistere una imposizione universale, l'ONU che ci dica come si governano le migrazioni. Le migrazioni ci penso io lo stesso di vietarle. Mi chiudo nei miei confini e non mi interessa il fatto che, ecco, questo sarebbe già un modo di affrontare il problema certamente contrario al senso della Costituzione. Vi ringrazio, vi scuso di aver trattenuto annoiato. Ringraziamo il professor Lira per la bella e dotta disquisizione sulla Costituzione, vista anche da un punto di vista diverso da quello a cui siamo abituati, quindi molto interessante. Apriamo un dibattito se ci sono delle domande. Il professor Lira deve rientrare prima di essere a Milano, quindi ci dirà. Non ho orari. Ci dirà lui quando deve andare. Non ho orari vincolanti. Rompo il ghiaccio io con una domanda, poi spero che non ce ne siano. Non mi fermo a cena, ecco questo. che ce ne siano altri, visto qualcuno sta qui gente a prendere appunti, voglio sperare che ci sia. Io voglio chiedere, il nostro è un paese dove si fanno le leggi e poi si devono fare le leggi che titolano giusto interpretazione della legge, no? Siamo già un paese strano da questo punto di vista, ce ne sono un sacco di queste leggi di giusta interpretazione, dice. Vorrei parlare sulla giusta interpretazione della Costituzione, nel senso, l'articolo che proibisce la ricostruzione del Partito Nazionale Fascista, oggi disatteso dalla magistratura in maniera eclatante, dall'altro ieri o di ieri l'ultima sentenza che ha assolto i fascisti che a Milano hanno portato simboli nazisti, lettere, hanno saluti romani al campo 10, non dicendo perché la magistratura ha ritenuto di riconoscere a questa gente il diritto di esprimersi liberamente, diritto che la Costituzione ovviamente riconosce a tutti i cittadini italiani, allo stesso tempo però riconosce anche qualcos'altro. Il legislatore dice non si tratta di ricostruzione del partito fascista, si tratta di espressione di un diritto, no? Come possiamo interpretarla in questo senso la Costituzione? Io non sono totalmente d'accordo nel chi pensa che la nostra magistratura e sbaglia. No, io riferisco a questo tema del dodicesimo di disposizione transitoria finale è un tema molto delicato, perché è un po' sta al confine. Intanto non è un caso che sta nella disposizione transitoria finale della Costituzione, dodicesima disposizione. Microfono. Quindi, perché è transitoria? Chiedo scusa. Sì, ho spinto. Perché di disposizione transitoria finale dodicesima? Perché si voleva, come dire, disciplinare un fatto transitorio, per l'appunto. Il fascismo era appena finito e non si poteva considerare definitivamente morto, forse, e quindi si è detto, attenzione, noi stiamo costituendo un nuovo Stato democratico, è chiaro che i partiti nella nuova Repubblica Italiana non possono essere quello che era stato il partito fascista, cioè un partito che pretendesse di comandare, diciamo, e di diventare regime. Un partito che avesse questa pretesa è un partito anticostituzionale, quindi non è un partito consentito dalla Costituzione. Articolo 49 della Costituzione: tutti i cittadini sono liberi di riunirsi liberamente in partiti, possono riunirsi liberamente in partiti per concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale. Questi sono i partiti, con metodo democratico. Poiché il partito fascista era esattamente il contrapposto del metodo democratico, perché il partito che invece determinava la politica attraverso l'uso della forza, l'uso dell'autorità, l'uso della prepotenza, quel partito non è un partito conforme alla Costituzione, non potrebbe mai rinascere, non è consentito. Nella storia è stato anche preso una volta almeno una sentenza che ha sciolto un'organizzazione perché si è riconosciuto che quell'organizzazione stava in luce e voleva ricostituire il partito fascista. Questo vuol dire allora che vanno penalmente perseguite ogni manifestazione, ogni rito simbolico che richiami il fascismo e quindi tenda a esaltare, per esempio. Eh no, perché qua siamo su un altro terreno, qua siamo sul terreno non dei partiti politici, cioè dell'organizzazione di partito, cioè fare un'organizzazione che partecipa alla vita politica del paese. Qua siamo sul terreno della libera manifestazione del pensiero, che fino a quando il pensiero può essere un pensiero anche, come dire, anticostituzionale, uno può essere, ma fino a quando resta sul terreno del pensiero, cioè espressione di opinioni, non può essere perseguito, perché altrimenti il rischio è quello di, appunto, di costruire una nuova ideologia di Stato. Il confine che non va superato è quando il pensiero diventa azione, cioè rischia concretamente di diventare azione. Ecco perché si dice allora: un discorso non può mai essere represso, non può essere condannato perché tu hai fatto un discorso, ma se tu, facendo un discorso, inciti per esempio alla violenza, allora il tuo pensiero è in realtà una istigazione, diventa azione, è azione, e allora io lo colpisco. Quindi l'istigazione alla violenza è vietata, è penalmente perseguita, perché non ogni pensiero ha solo, è solo espressione di opinione. Finché rimane solo espressione di opinione, si discute e auspicabilmente la ragione porterà, diciamo, a prevalere il pensiero giusto su quello sbagliato, ma se diventa azione, cioè, e quindi hate speech, come si dice oggi, cioè discorsi che fomentano l'odio, che fomentano la violenza, che incitano alla violenza, queste sono penalmente perseguite. Allora anche le manifestazioni di tipo fascista, se fossero manifestazioni, se sono manifestazioni di incitamento ad un'azione fascista, allora sono penalmente perseguibili. Se no, no, ecco, guarda, è un confine sottile, che però dobbiamo stare attenti a non varcare, perché dico sempre, quando parlo in queste occasioni, mi è rimasto impresso guardando su YouTube queste immagini, nell'anno scorso, nei primi mesi dell'anno scorso, a Palermo, se non ricordo male, c'è stata una manifestazione antifascista, e pochi giorni prima c'era stato un esponente di, non so se di Forza Nuova, di Casa Pound, non mi ricordo più, di queste, che era stato picchiato, è stato legato con dei nastri, con un nastro adesivo, e era picchiato, non l'avevano ucciso per fortuna, ma l'avevano picchiato. Questo, è stato, evidentemente ci sarà il processo, è tutto quello che volete, ma io ho visto una manifestazione nelle strade di, credo, di Palermo, antifascista, che si qualificava antifascista, in cui i partecipanti sbandieravano i nastri come quello usato per legare l'esponente di Casa Paolo. Questo non è antifascismo, è fascismo, cioè esaltazione della violenza. Allora, attenzione a non superare, anche da parte di chi è antifascista, appunto per definizione, a non superare certi confini, perché la violenza è in sé l'anima politica del fascismo, è la violenza. Cioè non conta quello che tu sei, non conta l'essere umano, non contano i tuoi diritti, conta la forza, la potenza trasferita, la potenza della nazione trasferita nel duce, nel capo. L'idea del fascismo è quella. Se ricadiamo in quella, ecco, per questo dico attenzione, giusto stare attenti se risorgono manifestazioni delle cose fasciste, è giusto culturalmente lavorare quando ci fosse una manifestazione di nostalgici, io se fosse possibile contrapporrei in piazza un bel microfono che diffonde il discorso di Mussolini il 10 giugno 1940, quando diceva che si entrava in guerra, perché io voglio sapere chi davvero, ascoltando quelle parole, possa ancora pensare che quella è una buona idea, che quella è una buona politica, ecco. Credo che, insomma, qua, l'impegno nostro dovrebbe essere soprattutto quello della cultura antifascista, cioè capire, non mai correndo il rischio di trasformare l'antifascismo in l'anticamera di una violenza, perché altrimenti l'antifascismo diventa fascismo. No, la ringrazio, ho capito perfettamente cosa voleva dire. Noi siamo perfettamente d'accordo come ampi, cioè basta guardare la manifestazione di Milano, quelli che gridano contro gli ebrei sono fuori dall'ampi, non sono nell'ampi, cioè sono, su questo siamo perfettamente d'accordo. Sì, il confine è chiaramente così, proprio così, un filo, no? Dicendo. Però abbiamo queste forze che si richiamano chiaramente al partito fascista, che oggi partecipano alle elezioni e vengono accettate dalle commissioni elettorali della prefettura. Forza Nuova presenta Casa le sue liste, Casa Pan presenta le liste. Però si è presentata le liste, sì. Forse in sede di presentazione delle liste qualche maggiore esame andrebbe fatto, non lo so, perché Casa Pan però è uno strano tipo di organizzazione, no? Perché adesso non lo conosco da vicino, ma sono quelli che ora poi distribuire nelle borgate romane distribuiscono pacchi liberi. Poi invece l'hanno capestato quello che andava agli zingari. Ma l'uso della violenza, certo, è il segnale. Ma l'uso della violenza da entrambe le parti, bisogna evitare. No, certo, la nostra parte non c'è nessun problema. Calpestare il pane, secondo me questo è stato, io non so se li hanno presi, la polizia era là. Sì, li hanno denunciati, ma se vanno puniti perché è un gesto. Sì. Allora, passiamo a. Abbiamo la richiesta di un intervento. Pronto? Niente, due domande, una sulla questione del diritto internazionale e una sulla libertà, che non è solo quella di tipo normale, come utilizzo io i termini, ma però è quella di stampa che orienta la gente. Allora, prima sulla questione, per dire cosa è stata la Costituzione e come la si applica oggi dentro un contesto internazionale. Allora, io mi trovo di fronte oggi, come tutti, di fronte a una disinformazione sulla questione del Venezuela, dove questo popolo ha il diritto dell'autodeterminazione, o perlomeno questo consiste sotto questo profilo, e poi dopodiché abbiamo uno Stato potente, che sono gli Stati Uniti, che prima affama il popolo e poi fa cerca di dire che vuole di aiuto umanitario per sovvertire quelle che è la volontà del popolo. Allora, in questo contesto, noi che abbiamo questa Costituzione, come ci leghiamo dentro questo, potrei anche immaginare la risposta, ma però volevo sottoporla proprio a questa sera. L'altra questione è sul diritto di informazione. Noi abbiamo un paese di cui le cose che ha detto il relatore veramente le ha esplicitate in una maniera molto chiara e con grande capacità. Ma la sostanza è questo, che noi abbiamo un diritto all'informazione che oggi siamo che 139esimo paese sotto il punto di vista della libertà di informazione. Io non entro in merito sulla pubblicità per l'informazione, che uno si orienta, i giornalisti che poi facciano politica, cioè, non rientro in questo. Io rientro su un aspetto, come siamo informati? Allora da parte ci sono i social, qualcosa, anche disinformazione arriva, i social da una parte disinformazione, dall'altra parte però ti dà qualche orientamento che forse sui giornali, per questione di convenienza, la dico così, non emergono. Allora la sostanza, ma la democrazia espressa dalla Costituzione, è vero che è un auspicio, ma quando? Scusa, grazie. Raccogliamo altri interventi prima di rispondere. Sì, grazie di tutte le cose che ci ha raccontato. Faccio un paio di domande. Questo è lo storico. Sì. La prima. Magari mi cogli un fallo su qualche taglio storico. Prima, non so, mi viene in mente la strepitosa esperienza che esplode nell'estate del 44 con le Repubbliche Partigiane. Vorrei ricordare l'esperienza straordinaria della Repubblica dell'Ossola, che vide una donna in primo piano che poi a ottobre raggruppò le donne e i bambini e si rifugiarono in Svizzera, quando ci sono le foto in un bel libro di Angelo Del Boca, quando i fascisti che inseguono questa colonna di disperati, fascisti che sparano con una retroguardia di partigiani, non saremo tentativo di difendere donne e bambini, ecco. chiedo, si è spesso detto che nella Costituzione, nata nelle montagne, qualcosa di quell'esperienza, dell'esperienza delle repubbliche partigiane sia rimasto. Le chiedo dove, come, quando, se questo emerge, meno che sempre che lei non lo sappia dire, nei dibattiti in assemblea costituente, chi tiene la posizione, chi è l'erede in assemblea costituente di queste esperienze. La seconda cosa, un'eredità di cui io mi sento orfano, lei ha parlato di tre partiti che fecero un compromesso, per grazia che fecero un compromesso, perché abbiamo visto l'ultimo referendum contro la Costituzione che non è passato perché è stato fatto a spallate, no? Per la riforma, il tentativo di riforma costituzionale, non un compromesso che avrebbe potuto mettere d'accordo più parti. Ecco, io mi sento orfano dell'eredità dell'azionismo. Dell'azionismo? Dell'azionismo. L'azionismo uscì sconfitto dalle elezioni e questo evidentemente fu un'opportunità per altre forze politiche per mettere a tacere. Lo dico chiaramente perché io per quella vicenda, per quegli anni mi sono sempre considerato azionista, ecco, per chiudere con una visione progressista molto più avanti di quella che avevano le forze politiche, ecco, in questo compromesso mi sembra che l'esperienza dell'azionismo sia stato tenuto poco in considerazione, quindi sia stato scelto un compromesso tra forze cattoliche, i due partiti marxisti come le definiti lei, ma ecco, una certa visione d'Italia che durante la guerra di liberazione era ben presente è venuta meno e secondo me anche parte della debolezza della nostra Costituzione. Grazie. Sarà meglio che facciamo rispondere, sennò diventa troppo complicato. Vabbè, diciamo che sennò diventa ancora basso. Due domande, quindi solo prima. Diritto internazionale e Venezuela. Ma la questione venezuelana io non la conosco nel dettaglio naturalmente, ma è una questione abbastanza complessa, eh? Nel senso che c'è oggi, a quanto si capisce, si contrappongono questo regime interno che da un po' di anni stava in piedi, come ha detto da Maduro, non sembra il massimo della democrazia, insomma, per quanto si veda dall'esterno, e dall'altro ci sono queste forze contrapposte. Allora io non credo che si possa oggi dire che Maduro rappresenta la democrazia, però ripeto, non sono praticamente versato sulla situazione sudamericana. Nel Sud America, come in altre parti del mondo, si creano queste nodi, queste difficoltà di costruzione di una società davvero democratica. Insomma, come andrà a finire? Se questo tentativo di parte delle forze politiche interne, di quello del presidente del Parlamento, no, che si è autocandidato a guidare il paese, possa avere successo, non lo so. Ecco, non credo che oggi però si possa dire che. C'è molta mancanza di informazione sul Venezuela, non credo che si possa dire che è disinformazione tutto quello che parla contro Maduro, ecco, non credo. Quindi bisogna stare attenti, la disinformazione può essere in tanti sensi. Certamente non siamo molto informati, non sappiamo molto, quindi prima di pronunciare giudizi dovremmo essere... 20 elezioni sono state. Anche questa strana cosa per cui un paese ricco di petrolio, ridotto alla povertà, per cui come mai, dove sta sul petrolio, cosa succede, non lo sappiamo, o perlomeno si sa poco, ecco. Quindi questo è vero, che ci dovrebbe essere più informazione su quel che accade. È verissimo che la libertà di stampa ha un suo, come dire, complemento anche costituzionale nel diritto a essere informati. Questo l'ha detto anche la Corte Costituzionale più volte: non c'è solo il diritto a informare, c'è il diritto a essere informati. Quindi un assetto, per esempio, dei sistemi di imprese di comunicazione che sacrifichi il diritto di essere informati è anticostituzionale. Da questo punto di vista, certamente possiamo dire che non siamo un paese forse dove siamo informati in modo migliore dal sistema dei mezzi di comunicazione, stampa, c'è il problema del pluralismo, dei mezzi di finanziamento, del ruolo del mercato, insomma, tante cose molto dure, ma certamente insomma, il tema che del diritto a essere informati è un tema importante. Oggi c'è poi la rete, perché oggi l'informazione, il cittadino, non so se ormai le nuove generazioni si informano davvero leggendo i giornali, si informano forse qualche volta guardando le edizioni digitali dei giornali, ma vedo i miei figli, nessuno compra il giornale in edicola. Quindi vuol dire che oggi anche l'informazione passa attraverso strumenti diversi, che sono largamente collegati alla rete. Qua ci sono però dei problemi, perché naturalmente questo cosa vuol dire? Che niente, lasciamo ciascuno butti nella rete quel che vuole e poi ciascuno potrà scegliere, oppure ci vuole anche un certo controllo della rete, delle possibilità di risalire alla fonte, per esempio, di sapere chi ha detto che cosa. E questi sono grossi problemi, che però attenendo al sistema dell'informazione digitale, cioè all'informatica, richiede anche, come dire, accorgimenti tecnici che non sono facili. Oggi siamo di fronte a grandi problemi, pensate al tema del diritto d'autore, anche controverso oggi, uno mette in rete un testo o una musica e non paga i diritti d'autore, allora gli autori si lamentano che con questo gli impedisce di usufruire del compenso per il genio, e gli altri dipendono dalla libertà, però vedete voi. Sono temi difficili, non semplici. Io credo che si debba lavorare molto nel senso di garantire massima libertà dell'uso anche degli strumenti digitali, ma anche la libertà e il diritto di essere correttamente informati. Gli strumenti possono essere tanti, ma in Cina credo che fanno fin troppo questo mestiere di controllare la rete. Va bene, credo che impediscono qualcosa a correggere. Siti di. Sì, di essere visibili, l'ho detto, non credo che sia strano, cosa corretto, una strada. Qual è? Parliamo. Probabilmente anche qua la strada di una decisione sovranazionale, internazionale, probabilmente. Cioè, vogliamo vederci uno Stato delle sue leggi. Lunedì sera, adesso vediamo se fosse necessario, ci vediamo sì, perché poi Matteo non lo vede. Le Repubbliche Partigiane sono un'esperienza molto interessante. È vero, e che consente di dire che in quel periodo, in quell'estate, in realtà in Italia non solo c'erano due occupazioni, una del nord, una dei tedeschi e una degli alleati, non c'era, non solo c'era il governo del sud e la resistenza in montagna, era la Repubblica Sociale Italiana, che nel frattempo i fascisti e Mussolini avevano ricostituito a Salò. Quindi, ma avevamo, diciamo, almeno tre legalità, cioè la legalità del governo del sud, si pretendeva di essere il governo del Regno d'Italia, occupato in parte del genere. La legalità della Repubblica Sociale Italiana, che si presentava come legalità, sotto la protezione dei nazisti, ma si presentava come legalità, dallo Stato, dalla sua gazzetta ufficiale, eccetera, eccetera. E poi avevamo la legalità dei partigiani, che laddove appunto riuscivano ad essere presenti, ad essere prevalenti, hanno dato vita anche a queste esperienze molto interessanti, anche se durate poco, diciamo, di repubbliche partigiane. Evidentemente lo sbocco storico qual è stato? Queste repubbliche partigiane erano, come dire, l'embrione di quello che i partigiani avrebbero voluto, istituzioni sul modello di ciò che i partigiani avrebbero voluto. La storia è data nel senso che la resistenza nel suo insieme ha finito a insomma, alleata con le truppe degli Stati alleati, ha sconfitto il nazismo e ha liberato il territorio nazionale, rimettendolo sotto l'unica legalità dello Stato italiano. E alla fine, dopo il 25 aprile, la legalità riconquistata, non c'era più la Repubblica Sociale, e non c'erano più le Repubbliche Partigiane, e c'era il Regno d'Italia riconquistato e oggetto di quella trattativa, di quell'accordo, diciamo, tra le forze antifasciste. Quindi la legalità è diventata quella, e su quella legalità si è costruita poi la legalità costituzionale, e qua siamo l'elemento decisivo è quello che ho chiamato la decisione costituente. In quel momento quella legalità dice: noi siamo una legalità del tutto provvisoria, si dovrà costruire la nuova legalità sulla base dell'elezione dell'assemblea costituente. Quello è il punto chiave. sono storie che rimangono, le esperienze del punto di partigiani possono rimanere con esperienze interessanti e anche utili, anche da conoscere, per esempio, da conoscere meglio di quello che hanno rappresentato. La questione dell'azionismo, è vero, l'azionismo era una corrente dell'antifascismo, vista con gli occhi di oggi ha una grande intuizioni, perché era, diciamo, rispettoso delle libertà, non si ispirava allora alla sinistra di estrazione marxista, aveva non di questo modello, ma questo problema della presenza dell'Unione Sovietica, cioè uno Stato che la rivoluzione sovietica si era costituita richiamandosi ai principi del costituzionalismo liberale, libertà, uguaglianza, fraternità, soltanto che la libertà veniva sacrificata, anche le libertà fondamentali venivano sacrificate all'eguaglianza, e l'eguaglianza poi in realtà non era un'uguaglianza, e la fraternità si trasformava in dominio, diciamo, paracoloniale. Però è vero che il regime sovietico si presentava come un regime che, a suo modo, pretendeva di continuare i principi del costituzionalismo liberale. Voleva, proclamava una libertà che non c'era, proclamava l'eguaglianza, che poi nemmeno essa c'era, ma insomma la perseguiva attraverso gli interventi sulla struttura produttiva, e proclamava il proletario di tutto il mondo unito, e quindi la fraternità diventava quello, il proletario di tutto il mondo unito. Ecco. In quel clima in cui i due modelli erano l'Unione Sovietica, quello che il regime dell'Unione Sovietica aveva rappresentato, anche quello che, diciamo, di negativo ovviamente aveva rappresentato, perché appunto la negazione delle libertà fondamentali, la negazione del pluralismo politico, anche là il partito unico, e quindi alla fine anche la negazione della democrazia, nel senso come c'era rappresentativa attraverso un libero voto, da un lato questo mondo, e dall'altro il mondo dell'Occidente che si richiamava per intero ai principi del liberalismo, ma che faceva fatica a assumere le nuove forme costituzionali, le nuove forze sociali, cioè il movimento dei lavoratori. Tutto il primo dopoguerra è stato caratterizzato proprio da questo. La Repubblica di Weimar era una Repubblica con una Costituzione ampiamente sociale, però crolla sotto l'aggressione del nazismo. In Italia non nasce neanche, perché c'è il fascismo, quindi la fatica della costruzione di una democrazia nuova. La nostra Costituzione rappresenta proprio quella stagione, direi la migliore stagione del costituzionalismo contemporaneo. Subito dopo la guerra mondiale si credeva davvero nella possibilità di costruire uno Stato nuovo sulle basi democratiche. Gli azionisti ci credevano, come no? Tant'è vero che... Solo che, diciamo, in termini di consenso, gli azionisti erano 7 deputati. Loro hanno anche influenzato la Costituzione. Non la tessera, ma lei che presentata lei, no? Probabilmente anche altri presenti in governo. L'esperienza dell'azionismo, possiamo dire, è un esempio di come un'idea molto ricca di fermenti anche sul terreno del costituzionalismo contemporaneo non è riuscita a tradursi in una proposta politica assistita da sufficiente consenso. I cattolici democratici ci sono riusciti di più, naturalmente a Calvino, l'unità dei cattolici nella DC, le tentazioni che anche nella DC ci sono state a un certo punto di abbandonare l'unità antifascista, l'operazione Sturzo, quindi tante cose, insomma, la storia è fatta di tutti questi episodi. L'azionismo io penso che sia un'eredità culturalmente molto significativa, appunto, che non ha avuto quella forza collettiva di consenso che per altre forze, come la forza del socialismo direzione marxista e le forze della democrazia cristiana invece appunto che sono riuscite a dar vita alla Costituzione attraverso il loro incontro, e non nego che anche l'influsso però di questo nuovo liberalismo azionista ci sia stato nella Costituzione, quindi forse è un po' approssimativo parlare di una Costituzione tripartita, sono solo presenti i tre grandi partiti, non è vero, è anche il pensiero azionista, il pensiero azionista è sicuramente presente nel tessuto della Costituzione. In termini politici, quello che è stato, è stato. Un attimo solo, dopo ti do la parola. Approfitto dell'occasione per ricordare a tutti i compagni, tutti presenti, che il prossimo appuntamento è il 25 aprile, a cui tutti siamo tenuti a partecipare nei vari paesi, dove speriamo che si faccia anche un po' dappertutto così. Ma in modo particolare che come Comitato Provinciale hanno deciso di partecipare in massa, tra virgolette, alla manifestazione del 25 aprile pomeriggio a Milano. Allora noi faremo girare poi la mail per dire dove sarà il raduno, così saremo già assieme, siamo già d'accordo anche con la CGIL per una trasferta comune, diciamo, no? Ma vorremmo essere veramente in tanti, perché anche Como, no, andiamo giù qui, anche col treno, perché non costa troppo. Ah, ecco. A bella nord. Hai ragione. No, andremo in treno senz'altro. Vorremmo essere in tanti, veramente far vedere che Como c'è ed è presente. A volte ci siamo stati, a volte no. Vediamo se quest'anno riusciamo. Avevamo intenzione di portare anche il baule dei suoni, questi centinaia di ragazzi che suonano dicendo, ma sono in trasferta nel Corno d'Africa, dove non mi ricordo più dove. Per cui no, non nel Corno d'Africa, sono dall'altra parte. Capoverde. Sono in trasferta a Capoverde. Hanno una sede. Per cui adesso vedremo se troveremo qualche altro complesso che possa. Intanto chiediamo aiuto a individuare anche qualche altro complesso. Ah, scusate, vi ricordo anche il 28 aprile ad Ongo, dove abbiamo la consueta manifestazione fascista, in senso proprio stretto. Non loro, non la, loro. Loro di Ongo. Loro un altro discorso. Dove le due sezioni del lago organizzano, non so ancora bene il programma, il pomeriggio o la mattina? Alla mattina un convegno. No, noi siamo sempre presenti in contrapposizione ai fascisti che arrivano a fare il saluto romano, chiamare all'onore tutti i gerarchi. Dove è morto Mussolini? Cioè. No, dove sono stati fucilati i gerarchi. Vanno su anche a Mezzegra, dove è morto Mussolini, comunque, no? La stessa mattina. E noi siamo normalmente divisi dalla polizia dall'altra parte. Così, a urlare slogan più che altro a cantare bella ciao. Ci sarà invece questa conferenza il 28 sull'antifascismo dicendo, e la relatrice la Soliani è la Soliani, la direttrice di Casa Cervi, di Museo Cervi, che sarà quindi alle 10 a 10:30, dove esattamente? Al liceo musicale, ok, va bene, d'accordo. Cerchiamo di essere in tanti anche lì, per favore. No, dobbiamo avere il coraggio, tanto di senza tanti tempo, anche di essere sempre molto precisi, molto netti nel dire ciò che è bene, ciò che è male, ciò che... perché per esempio la resistenza va rivendicata in tutte le sue, nelle sue... ma l'esposizione dei corpi dei gerarchi di Piazza Loreto dopo il 25 aprile è una pagina nera della resistenza, purtroppo, perché in tempi di guerra la violenza diventa quasi conseguenza. Io credo che si debba avere anche coraggio di civile di dire noi non ci riconosciamo in quel tipo di gesti, li capiamo dal punto di vista storico, ma non li capiamo, non li approviamo, perché altrimenti si rischia veramente di... cioè il metodo in politica è molto importante, con che metodo ci battiamo per le nostre idee? Con i metodi della libertà della Costituzione o con qualunque metodo, anche quello violento? No, quello violento non è un metodo proprio della Costituzione, è il metodo democratico, rifiuta la violenza, rifiuta a priori. Per cui dico, adesso faccio questo esempio che un po', io mi ricordo quando io ero bambino, mio papà ha messo sotto un fermacarte, una fotografia di Piazzale Loreto, quello dei gerarchi. E poi c'è il Piazzale Loreto che invece viene giustamente ricordato come violenza fascista, perché c'erano stati i partigiani fascisti. Fucilanti. E i partigiani fucilanti. Certo. E non solo partigiani, che gente comune, perché la presa della carcere può fucilarsi. Ricordo questa cosa, mio papà ci aveva scritto sotto un motto biblico, vanitas vanitatum et omnia vanitas, cioè per dire come il potere. Là, Mussolini esposto testa in giù, non possiamo dire che è una bella pagina della Resistenza. Non sono bello da vedere, però sono le conseguenze anche della guerra. Forse non è nemmeno una pagina della Resistenza, lì è la popolazione che l'ha preso. La popolazione che guidava la popolazione, però. Cioè, se i capi della Resistenza avessero avuto il coraggio di dire: signori, noi siamo un'altra cosa, noi non siamo quelli che appendono i corpi dei nemici, capisco perfettamente, però a distanza di tanto tempo dobbiamo avere anche, come dire, il coraggio e la capacità di dire in cosa ci riconosciamo e in cosa invece non ci riconosciamo, spiegandolo storicamente. C'è Diego che... Diego. Io sono lì del gruppo di Confuso. Praticamente nell'ultima parte ha risposto parzialmente alla mia domanda, cioè come reagire di fronte a prevaricazioni e prepotenze, restando nel tema della legalità. Lei ha fatto un bellissimo discorso sulla Costituzione e ad ogni articolo che citava era una pugnalata al cuore per vedere come oggi viene praticamente distrutto tutto quanto i nostri padri costituzionali hanno fatto. La domanda è questa: oggi, visto come sta procedendo questo tipo di politica, come si può intervenire costituzionalmente contro i soprusi giornalieri che ne vengono fatti, lo scempio che ne viene fatto giornalmente? Lei giustamente prima parlava dei nuovi sistemi praticamente di diffusione delle informazioni. Questo è praticamente fonte di una disinformazione comunque globale, perché non si ha più il tempo di riflettere su quello che viene diffuso e di conseguenza tutto viene gestito nel momento. E di questo si fanno scudo quelli che poi ne approfittano. Vedi, non più tardi di 2 giorni fa, l'introduzione di una modifica alla legge che proibiva l'accesso alle elezioni di determinati elementi ed è stato stravolto, praticamente adesso si possono presentare, tra virgolette, cani e porci. Per cui, per contrastare un fatto del genere, la Corte Costituzionale dovrebbe intervenire, ma i tempi che impiega per poter proibire quanto viene stravolto fanno sì che nel frattempo però ci siano anche delle elezioni, per cui della gente che non è degna di poterci rappresentare viene comunque messa a rappresentarci, e questo squalifica tutto il lavoro delle persone che vogliono costruire quanto la Costituzione cerca di insegnare. Come fare? Difficile risposta. Grazie. Io penso a una cosa, che certamente bisogna anche utilizzare i mezzi giudiziari che ci sono. È vero che la Corte Costituzionale non può intervenire, non possiamo noi fare un ricorso alla Corte Costituzionale direttamente, per andare alla Corte Costituzionale bisogna che ci sia un giudice, un giudizio che solleva la questione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, questo è, però non è impossibile. Quando c'è materia ricorre al sistema giudiziario, cioè ricorre ai giudici, perché anche in via d'urgenza adottano dei provvedimenti ed eventualmente mandano alla Corte Costituzionale l'esame delle... Insomma, il nostro sistema anche giudiziario è concepito in modo tale che non dovrebbe mai esserci la, come dire, non la possibilità, ma la necessità di applicare una legge incostituzionale. Mai, un'applicazione non dovrebbe mai esistere, perché di fronte a ogni tentativo di applicazione dovrebbe esserci uno strumento giudiziario per dire: fermati un attimo, vediamo se è conforme alla Costituzione. Questo non è che funziona un sistema di questo genere, perché un giudice c'è sempre, a cui si può essere un giudice penale, può essere un giudice civile a cui uno fa ricorso, cioè ricorso in via d'urgenza, insomma, questo diciamo sul piano giudiziario ci sono strumenti per arrivare a mettere in discussione eventuali determinazioni davvero incostituzionali e arrivare all'accordo. Il problema però è che qui il tema del fascismo e dell'antifascismo, purtroppo l'elemento fondamentale è quello della cultura, cioè che tipo di... Se uno leggesse Secondo me, tante persone che leggono la stupidaggine detta di rete, ma la considerano una stupidaggine perché è tale, no, ce ne preoccuperemo fino a un certo punto. Il problema è quando si diffondono le stupidaggini, quando vengono assorbite. Ma e come si fa a rendere le persone più impermeabili alle stupidaggini? E qua è proprio come si costruisce una cultura, perché poi nella scuola. Come si costruisce? Ma la cultura però deve essere una cultura capace di avere gli anticorpi, non quello è fascista con cui devi picchiarlo. No, guarda che cosa vuol dire essere fascista. Renditi conto, capisci, studia, leggi. Non dire cose che non stanno in cielo né in terra che hai letto su Facebook. Vai a vedere, controlla, cioè esercita la tua intelligenza. Questo è il richiamo che alle persone, soprattutto ai più giovani, a tutti va fatto. Perché se tu eserciterai la tua intelligenza, scusate, tu pensi che ci sia, ne parliamo, fammi vedere, vai a vedere, vai alla fonte. Gli storici sanno che le fonti sono fondamentali. Ecco. Cioè, educare alla cultura della legalità è questo. E quindi la cultura. Invece educare al senso della. Se, oggi sembra che la politica sia opporsi. Dire no, allora chi è il no più forte? Se uno dice no a me, io dico no a te. Va bene, certo, si deve esprimersi anche in maniera forte, si devono esprimere le opinioni, ma la cosa che conta di più è creare una cultura democratica. E cultura democratica vuol dire questo, se uno davvero assimila le idee giuste della libertà, della democrazia, della socialità, se le assimila poi le sa anche diffondere, le sa portare. È un lavoro più lungo e difficile, molto più difficile che organizzare una manifestazione, certo, molto più difficile, ma forse dovremmo dedicarci più tempo e più energie, se possibile. E poi anche si riduce che lei fa un discorso profondo ponendo anche queste domande e la risposta che riceve sono le faccine. Sono le? Le faccine, i commenti ridotti. Ah, beh certo, perché la discussione nei social è diventata quasi esclusivamente non una discussione, ma appunto una tifoseria, è un po' come nello stadio, tifoserie. Prego signora. Fuori dall'argomento costituzione e resistenza, visto che Matteo aveva citato il referendum costituzionale, qual è stata la ratio dell'assunzione del bicameralismo allora e cosa ne pensa ora? Bel tema, richiederebbe un altro pomeriggio. Dunque, il bicameralismo, cioè l'esistenza di un Parlamento fatto di due camere, era essenzialmente diciamo una scelta comune a moltissimi ordinamenti, la maggioranza degli ordinamenti. Ci sono anche ordinamenti monocamerali, Norvegia, ci sono scelte una camera sola, ma la scelta in generale è stata nella storia dovuta a diverse ragioni. Una ragione storica era quella di conservare accanto alla Camera elettiva che esprimeva il popolo, diciamo, i nobili, il notabilato, i potenti, quindi quelli nominati dal re, i lords, insomma. E infatti in Inghilterra non aveva mai abolito la Camera dei Lords, che non è una Camera elettiva, ma a un certo punto ha fatto una legge nel 1911 per ridurne i poteri. Dice, perché, sì, va bene, interviene la Camera dei Lords, però l'ultima parola c'era la Camera dei Comuni perché è quella democratica. In altri paesi invece la seconda Camera è stata concepita come una Camera che intesa a dare ancora una rappresentanza al paese, ma diversa da quella della rappresentanza politica. Per esempio alla Costituente i democristiani erano abbastanza di questa idea, poi non sono riusciti a realizzarla, non è passata, ma di fare un Senato che non fosse un Senato elettivo come la Camera dei Deputati, ma fosse un Senato in cui si rappresentavano le regioni, perché i democristiani credevano molto al regionalismo, quindi le autonomie, e si rappresentavano le categorie professionali, un po' come una specie di CNEL, diciamo, trasferito in Parlamento quasi. Questa idea non è passata, ma era una delle idee che stava sotto l'idea di bicameralismo. Poi l'altra idea comunque era che due camere sono meglio di una, perché due occhi vedono meglio di uno, per così dire. Cioè, consentire anche quella che i costituzionalisti chiamano la camera di riflessione. Cioè, talvolta un'assemblea, quando c'è molta animazione, eccetera, può prendere delle decisioni un po' improvvise senza pensarci bene. E allora che ci sia una seconda Camera che ci può ripensare è un bene. Guardate, per esempio, la Costituzione si ispira a questa idea quando, nell'articolo 138, richiede che per approvare una legge costituzionale, quindi per modificare la Costituzione, non solo devono esserci le due camere, ma ce ne vogliono quattro deliberazioni e ciascuna camera deve ripensarci dopo 3 mesi. Quindi vuol dire, cioè, pensateci bene prima di cambiare la Costituzione. Questo vuol dire, ecco, questa è una delle ragioni storiche del bicameralismo. Comunque si parla, diciamo, di evitare che si formi un'assemblea strapotente, per così dire, per aggrupire. E alla Costituente c'era un po' questo timore, per esempio, perché i comunisti erano, fondamentalmente avrebbero voluto una camera sola, una camera eletta su base universale e non troppi poteri esterni, diciamo così, neanche una corte costituzionale. I comunisti erano un po' diffidenti, poi l'hanno accettata, intendiamoci. Ma inizialmente, insomma, cos'è questa bizzarria di 15 signori che non ha letto nessuno, che si permettono di contraddire ciò che ha detto il Parlamento? E c'è un po' questa dialettica fra la democrazia vista come essenzialmente espressione della maggioranza e la democrazia vista come espressione, ma di un equilibrio, anche di un rispetto delle minoranze, di una diciamo, mai un potere assoluto a nessuno, neanche alla maggioranza, neanche al partito più forte. L'idea di una democrazia, diciamo, condivisa ma equilibrata, in cui c'è il controllo reciproco, per così dire, che è un'idea, diciamo, più conforme al costituzionalismo. E dentro in questo ci sta anche il bicameralismo. Poi oggi questo bicameralismo forse non funziona come si sarebbe voluto, perché adesso che senso ha che ci sia un'altra Camera che politicamente di norma è la stessa configurazione della prima? E se non lo ha, crea difficoltà, perché per votare la fiducia al governo ci vogliono tutte e due le Camere. E quindi indubbiamente questa revisione del bicameralismo perfetto cosiddetto è un argomento che, insomma, si presta ad essere considerato. Fino adesso non si è arrivati a modificarlo, perché nei due casi in cui si è tentato di farlo si è fatto con delle riforme che avevano anche altri aspetti e che intanto non facevano nel modo migliore la correzione del bicameralismo, ma poi mettevano insieme tante altre cose. Nel 2005 Berlusconi fece una riforma costituzionale che sostanzialmente mirava a rendere più potente il Presidente del Consiglio, lui. Cioè, nel 2016 la maggioranza del PD ha voluto fare una riforma costituzionale che ancora una volta andava nel senso della semplificazione, del tagliare i poteri di veto quindi, diciamo, consentire più facilmente decisioni da parte della maggioranza di governo, ancora una volta in un'ottica un po', a mio parere, almeno in un'ottica un po' di una democrazia plebiscitaria, cioè in cui non è importante discutere, non è importante confrontarsi, non è importante, ma è importante decidere, fare e fare secondo la testa del capo, il leaderismo, che è una delle grandi minacce alla vera democrazia, perché questo del leader non è vera democrazia, è affidamento. Tutti ci affidiamo a un leader, ci fidiamo, lui guarda, è bello, è bravo, è uno di noi perché porta la maglietta con i nostri simboli, li cambia, poi. E noi siamo contenti e quindi lo votiamo. Questo non è democrazia, è un'altra cosa, per me non è democrazia costituzionale, è il plebiscitarismo, cioè la gente, anche la maggioranza della gente, che si fida di uno e gli affida, se tu sei il migliore fai tu. La democrazia è più faticosa, più difficile, ma è un'altra cosa. Allora il bicameralismo sta un po' in questa chiave, poi ripeto, il modello che oggi è realizzato non è quello buono, e forse si potrebbe pensare qualche, ma potrebbe pensarlo in una chiave davvero costituzionale. Allora oggi forse non è il momento, nel senso che siamo in un clima in cui mettere mano alla Costituzione rischia veramente di fare dei danni, di fare solo danni. E allora si bisognerebbe lavorare perché eventuali modifiche alla Costituzione anche su questo tema vengano da una riflessione più attenta e partecipata e diciamo, se non unanime, quasi unanime. Cioè, quando siamo davvero d'accordo che quella è una buona riforma, io penso che se l'80% delle forze politiche del paese concordassero su una certa riforma costituzionale, ancora oggi io ho fiducia che sarebbe una riforma buona, ho fiducia, ecco, non lo so, poi magari può capitare anche che l'80% faccia delle cose pessime, ma in linea di massima, diciamo, il metodo per cambiare la Costituzione dovrebbe essere quello: mettiamoci d'accordo, troviamo l'equilibrio, perché ciascuno oggi tende a portare delle istanze a cui si contrappongono altre istanze che qualche volta sono anche giuste, quindi l'equilibrio è un problema. Una domanda. domanda velocissima e molto rapida. Lei cortesemente mi può spiegare com'è possibile che in una Repubblica democratica nata dalla Resistenza nel 2019 ci sia gente che si autoproclama i fascisti del nuovo millennio che hanno diritto di essere eletti? Perché Fiore o Di Stefano non sono in galera, ma sono, possono essere eletti, e se vanno avanti i tempi del genere ci ritroviamo in Parlamento? Perché più di genere per il momento non è stato riconosciuto che la loro azione, anche la proclamazione, fosse un'azione identificabile come riorganizzazione del partito fascista. E il fatto di usare l'aggettivo fascista di per sé non è naturalmente decisivo, insomma. Ed è un problema complesso quello, perché prima di dire tu non puoi presentarti alle elezioni, cioè non puoi presentare la lista, se riprendi una lista con lista esclusa, ci vuole un controllo di tipo giurisdizionale, no? Non può essere decida così la commissione elettorale del momento. E bisognerebbe però decidere se è una lista che rappresenta la riorganizzazione del partito fascista. Se fosse una forma di riorganizzazione del partito fascista, dovrebbe essere vietata. C'è la legge che lo vieta. Fino adesso vuol dire che questi, Casa Pound e compagni, non sono stati mai riconosciuti come nuclei di ricostituzione del partito fascista, e che quindi sono espressioni, certo, di ideologie fascistizzanti, fasciste probabilmente. Cosa dovrebbero fare per essere identificati come fascisti? Non lo so, lo dicono loro di essere. No, sì, ma non è soltanto un problema di auto, non è un problema di autodefinizione, capisci? Io sono fascista, io sono comunista, io sono. Questa è un'autodefinizione. Dire che sono comunista fino adesso non è reato. No, non è reato, assolutamente non è reato neanche dire io sono fascista, non è reato neanche dire. Non è reato. E questo è quel confine sottile che ho detto prima, che c'è tra il dire e l'agire. Cioè, quello che è vietato e diventa reato è il pensiero che si trasforma in azione. Io incito alla violenza, io organizzo un metodo politico di... organizzo pestaggi, se uno organizza pestaggi, questo va messo in galera. Come? Non so come mai fino adesso no. Il fatto che si rifiuti addirittura l'accettazione di leggi internazionali che impongono il ricovero di persone che vengono di naufraghi che non sono migranti. Questo dovrebbe essere il primo Salvini a mettere attenzione, perché qua siamo sul piano delle idee, dell'ideologia. Il discorso qui non è solo ideologia, questo si trasforma in azioni. Questo è il fatto che purtroppo a delle persone, indistintamente dalle loro capacità, vengono negati i diritti fondamentali. Beh, ma infatti, scusi, infatti la magistratura è così acquisito, non è che il Parlamento la... Ma il fatto che a un certo punto ci sia della gente che vota l'impunità a un elemento che ha agito in questi termini, fa notare che quantomeno al popolo, il popolo percepisce il fatto che a questo punto tutto è concesso. No, cioè, l'azione di negazione di diritti ad un altro è, visto e considerato che abbiamo il ministro che è stato legalizzato, io sono autorizzato a fare altrettanto. Poi hai voglia tu a fermarli. Allora, finché è singolo sono d'accordo, ci si può ragionare, però già a quel punto lì una volta si diceva che è meglio ragionare con un ladro che con uno stupido, perdi solo tempo. Figurarsi quando c'è una massa di stupidi, come si può fare ad intervenire e a far sì che questa massa venga riconosciuta come illegale? Ma questo è il problema. Lei ha citato il caso della Diciotti. Nel caso della Diciotti c'è stato una magistratura che ha detto: qua in effetti, dal punto di vista dei fatti, si configura un reato. Però attenzione, perché c'è una norma di legge costituzionale che dice che per i reati commessi da un esponente di governo, un ministro, nell'esercizio delle sue funzioni di governo, la persecuzione penale è subordinata al fatto che la Camera di appartenenza o comunque il Senato autorizzi l'azione, e può non autorizzarla, dice la legge costituzionale, quindi siamo sempre nel terreno costituzionale, può non autorizzarla quando ritenga che quell'atto è stato compiuto per proteggere un interesse costituzionale dello rilevante dello Stato, o difendere la sicurezza dello Stato, mettiamo, o per un interesse pubblico preminente, preminente vuol dire che prevaleva sull'interesse leso in quel momento. Allora, naturalmente uno qua, dice, beh, vediamo un po', di per sé il Senato doveva deliberare, non è assurdo che il Senato vada a decidere, non è un'impunità, il Senato là decide che quel reato non va perseguito, anche se è reato, che quel reato non va. Guarda, all'Assemblea Costituente Vittorio Emanuele Orlando, che non era un fascista, era contrario a istituire la Corte Costituzionale, perché diceva noi non possiamo lasciare in mano ai giudici i temi del governo. Cioè, io quando ero al governo, chissà quanti reati ho commesso. Cioè, una volta ho fatto aprire una cassaforte e poi furti, falsi. Una volta mi hanno detto che bisognava spendere 10.000 lire puntellare il maschio angioino che stava crollando. E io sono andato al ministro del tesoro e gli ho detto, ma no, tira fuori, se non ci sono, cioè io li ho trovati fuori, avrò commesso un reato, magari ho commesso un reato, ma per dire insomma che, cioè, che esiste, e questo lo ammette la legge costituzionale, che ci sono dei casi in cui una condotta, un comportamento che di per sé costituisce reato, può essere esentato dal normale, perché è stato commesso da un ministro nell'esercizio della funzione di governo, per un interesse pubblico preminente. Allora, qua la discussione non era se fosse legittimo o no che il Senato autorizzasse, era chiamato ad autorizzare o no. E naturalmente con quali criteri? Io personalmente avrei detto, ma qua, voglio dire, facciamo prima la difesa di Salvini. La difesa di Salvini era, io non è che ho commesso un reato minacciando l'incolumità o la vita di queste persone, perché ho fatto sbarcare i minori, hanno fatto sbarcare i malati e dopo 4 giorni sono sbarcati tutti. Questi stavano nella nave, erano assistiti, nutriti, quindi io non ho minacciato la libertà di queste persone. Dal punto di vista giuridico uno però dice, ma tu hai però per 4 giorni impedito a questi di muoversi, quindi di muoversi, di scendere dalla nave, e questo giuridicamente parlando costituisce un sequestro di persona. Però obiettivamente adesso diciamo che c'è una differenza fra il sequestro di persona di chi prende una persona, la rapisce, la porta in cantina, lo chiude e lo tiene per un giorno, anche quando prende un precedente, lo sì, chiude in un'ambasciata e non può uscire. Quando un personaggio pubblico viene richiuso in un'ambasciata e non può uscire, è comunque considerato sequestro. Anche quello sto pensando, che... no, ma dico quando sciogge qualcosa, cioè, quella è un'altra cosa. Cioè, se io prendo una persona e lo richiudo, è sequestro di persona. Qua diciamo, faccio la difesa di Salvini, io non ho sequestrato io la controrisposta che farei è sì, tu però hai strumentalizzato delle persone, perché per convincere gli europei, gli altri europei a aprire, come giustamente sarebbe, i loro porti, anche i loro territori, hai usato delle persone che naturalmente non è che gli hai fatto del gran male, perché poi dopo 4 giorni sono sbarcati e tutto, quindi non è che li hai uccisi, non hai sparato, non hai minacciato la loro salute, perché quando c'era qualcuno malato li hai fatti sbarcare. Quindi vuol dire la difesa di Salvini non è una difesa strampalata, è una difesa che rientra un po' nel nostro sistema giuridico, rientra anche il fatto che per interessi dello Stato, per interessi pubblici, talvolta si possono commettere reati. Per esempio gli addetti ai servizi segreti possono essere autorizzati addirittura preventivamente a commettere un reato, però là si dice che reati, la legge lo specifica, tu puoi essere autorizzato a commettere un furto, per esempio, è un reato il furto, sì, ma se l'agente dei servizi segreti ruba una cosa perché in quel momento serve per l'azione di intelligence, può essere autorizzato. Un falso, non è un reato il falso, sì, beh, un agente dei servizi segreti può commettere un falso e può essere autorizzato a commettere un falso, perché? Parliamo degli agenti provocatori, queste cose qua. Quindi diciamo, il confine reato o non reato può essere in qualche caso appunto modificato in questo modo. E il caso dei reati ministeriali è un po' di questo tipo, cioè non è reato commesso nell'esercizio della funzione di ministro. Naturalmente però uno dice, beh, però se tu nell'esercizio della funzione di ministro fai qualche cosa che chiaramente, per esempio, se avesse ordinato di sparare, per dire, che tentava di scendere, questa era la tentativa di incolumità. La legge sui servizi segreti dice che si può essere autorizzati a commettere reati, ma non possono essere reati contro la persona. Possono essere reati contro la fede pubblica, contro le cose, il patrimonio, eccetera, eccetera, ma non reati contro la persona. È interessante, no? Perché vuol dire che la legge qua valuta nell'equilibrio fra necessità di commettere, di perseguire tutti i reati e opportunità di salvaguardare interessi pubblici che per essere tutelati possono qualche volta richiedere anche condotte di reato, ti dice tutti certi reati puoi essere autorizzato e certi altri no. Nella specie il reato di sequestro di persona però è un reato contro la persona, uno potrebbe dire, là la legge costituzionale non specifica nulla, non dice quando il Senato può autorizzare o no, ma io abbiamo fatto quale poteva essere difesa di Salvini, quale in effetti è stata, perché anche la relazione della giunta diceva, ma se il ministro certamente, non so, ordinasse di sparare sulla folla, non sarebbe neanche un reato ministeriale, non ci vorrebbe autorizzazione, sarebbe un reato comune, quindi dovrebbe essere perseguito. Poi la valutazione politica è quella che è stata, ovviamente la maggioranza ha difeso il ministro. Io personalmente avrei detto quello, la mia critica sarebbe stata quella, tu hai strumentalizzato delle persone. Capisco che non è che hai fatto, non li hai messi in pericolo di vita, in pericolo di incolumità, 4 giorni, tra l'altro essendo nutriti e assistiti non è l'effetto dirompente che si ha, però hai strumentalizzato le persone, cioè hai usato questi poveretti per fare la tua azione politica di convincimento. Questa è la mia critica politica a Salvini, quindi non mi scandalizza tanto che sia stata votata la non autorizzazione. Io dico, politicamente mi pare sbagliato strumentalizzare le persone sia pure per un fine che in ipotesi poteva essere legittimo e persino buono da perseguire, sono quello di convincere gli altri stati europei che non può l'Italia essere l'unica che si tiene tutti i profughi, perché i profughi arrivano via mare, e l'Italia è sul mare, mentre la Germania o gli stati del nord Europa non sono sul mare. Ecco. Vuole fare un discorso un po' di buon senso anche in questo senso. Io credo che si siano passati però momenti peggiori. Forse. Quando a fine 69, i primi anni 70, gli anni del terrorismo, Junio Valerio Borghese organizzava il golpe, per dire, quella era una destra peggiore che il fatto che oggi qualcuno manifesti per strada con la mano alzata e la nera in testa. Per dire, lì veramente mancò lo Stato, che era mancato già non epurando sufficientemente, perché in fase di costituente non si pensò a un'epurazione più profonda? La curatura fu fatta, ma poi ci sono anche appunto molte. Forse la legge molte, che vuole togliarsi. Sì, ma più che la curazione, cioè, lei ha ragione quando dire che quelli sono i fatti più gravi. Io non credo che si possa dire però che la è mancata la difesa dello Stato, perché alla fine è vero che il golpe borghese, queste cose qua, però guardi che quell'epoca, quella delle stragi, degli attentati fascisti, degli attentati poi delle Brigate Rosse, è stata superata dalla Repubblica Italiana senza alterare il proprio tessuto democratico fino in fondo, cioè, e credo che sia stato possibile perché ancora allora erano le tre grandi forze che hanno fatto la Costituzione ad essere solidali, credo, solidali contro il golpe borghese e contro le Brigate Rosse, il partito armato, diciamo. Anche se la persecuzione a chi fu accertato fosse responsabile non fu dura. Quelle non erano reati di pensiero. Ah, certo. Sì, là c'è stato probabilmente, infatti tra tanti reati probabilmente commessi, chissà qualche cosa rimane. Però io dico che fondamentalmente credo in quella stagione la Repubblica ha retto, ecco, diciamo così. E quindi ho detto ragione quando lei mi dice ci sono stati momenti peggiori di oggi. Ma oggi quello che mi spaventa di più è che sembra diffondersi una cultura contraria a quella, diffusa cultura. Mentre in passato, insomma, almeno la cultura della non violenza, la cultura della democratica, la cultura del rispetto, la cultura di una politica di confronto e non di scontro. Oggi questo rischia un po', perché quando si pensa, io quando sento i discorsi in Parlamento, ma è possibile che sono tutti discorsi, potremmo dire quasi di odio, discorsi in cui l'unica cosa che dicono è tu, voi siete... capisco, la politica è confronto, ma non si può immaginare che il metodo della politica sia ridotto al puro scontro, quasi fisico, qualche volta addirittura arriva dei lanci di fascicoli di carta. La politica è un'altra cosa, è più faticosa, è più, capisco, qualche volta oggi uno può essere, ma non possiamo cedere all'idea di trasformarci trasformare la politica in una rissa continua, altrimenti inevitabilmente finiremo in forme di fascismo o di antifascismo fascista, per intenderci. Ci sono stati anche momenti forse più difficili, secondo me. Nel 60 la polizia sparava sulla gente, nel 69 no. Anche quelli attentati. 60-62, morti di Reggio Emilia, morti di Reggio Calabria, dicendo, la polizia, cioè i celerini, sparavano all'altezza d'uomo sulla gente, sono stati 7 morti nel 60. Genova, sì, adesso io ho citato... No, sì, Genova, giusto, io ho citato Reggio Emilia e Reggio Calabria, ma anche Genova. Il G8, no? Genova di 2001, siamo nel 2001, quindi molto più recente. Però là c'è stata una reazione, almeno c'è stata una reazione giudiziaria, perché ci sono stati dei processi. È vero che con i processi sono stati quei posti d'esistere. È vero che sono stati purtroppo perché c'era una legislazione carente. Non c'era ancora il reato di tortura. Non c'era il reato di tortura allora. Perché altrimenti avrebbero dovuto essere imputati di quello e non c'era. Ma c'è stata una reazione della magistratura che ha fatto comunque i processi. E soprattutto c'è stato una pluralità di ricorsi alla Corte di Strasburgo, la quale con 3 sentenze ha detto che l'Italia aveva violato la Convenzione dei diritti dell'uomo, cioè ha condannato l'Italia per quei fatti di Genova. Quindi quello è stato un passo in avanti. Perché sono stati quei voti soprattutto giornalisti stranieri. Beh, non solo giornalisti. Ha fatto la cassa di risonanza, certo, c'era anche questo aspetto, ma non solo giornalisti, non è proprio i giornalisti di informazione, proprio il tema. Il fatto in sé di questa la vicenda della caserma di Bolzaneto, qui la scuola di sempre la caserma di Bolzaneto, sono stati i comportamenti della polizia effettivamente molto criticabili, molto, per usare un termine ancora. E però voglio dire, ecco, in quel caso lo Stato non ha compiuto, la Repubblica non è saltata fino in fondo, non ha adempiuto fino in fondo al suo compito, perché non aveva previsto per legge, lo ha fatto dopo, la legge sulla tortura è arrivata dopo. Però ha promosso i vari capi che avevano... Ecco, c'è stato anche qualcuno di infatti, in quella storia io vedrei, diciamo, non una condanna definitiva dell'Italia, ma direi però, quantomeno c'è stata una reazione, e c'è stata una reazione che è arrivata fino in fondo, fino alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dichiarato solennemente che la Repubblica Italiana aveva violato la Convenzione dei Diritti dell'Uomo praticando cose che erano qualificabili come tortura. Allora, abbiamo finito, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa rientrando un po' in tema? Nel senso che... Beh, è tutto in tema, la politica è tutta in tema, chiaramente. Non è che... No, certo, io non... Diego, non voglio dire... Non è una censura. Assolutamente, cioè non... Niente, allora salutiamo il professor Onida per la bella lezione che ci ha dato, ringraziamo. Speriamo di ripetere, no, potete cominciare a alzare, saluto tutti, speriamo di ripetere l'anno prossimo un'iniziativa come questa, con altri temi, chiaramente la faremo diversa.